passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Parenzo, una pazza idea per Berlusconi, trovala anche tu, ti prego. Lanciamo questo grande concorso alla Zanzara questa sera: trovate una pazza idea per Silvio, che ne ha in realtà tirata fuori una. Che volete fare? L'euro, stampare l'euro con la nostra zecca, stampare moneta. I sesterzi, dove dobbiamo arrivare, Parenzo? Difendilo. Ma perché dovrei difenderlo? Ma secondo te lo difendo su questo? Oh, non lo so. Ma secondo te lo difendo su questo? Stampare moneta? Ma non credo, so che oggi doveva presentarsi al processo, capito? Doveva andare al processo lui. E invece è andato a dire stampiamo gli euro con la nostra zecca, Berlusconi, il tuo amico, hai capito? No, veramente non è amico mio. Comunque, ti faccio fare questa facile ironia, devo dirti che in realtà lo sanno tutti, questa riunione con i parlamentari e con gli europarlamentari del PDL è stata fatta apposta, no? Diciamola tutta, per trovare il cosiddetto legittimo impedimento. È stata sostanzialmente convocata questa riunione per evitare di fare l'interrogatorio, che peraltro coincideva con la visita del Papa a Milano. Grave imbarazzo. La russa e la pazza idea. Ripeto, la pazza idea già l'ha anticipata una, poi magari ce ne saranno altre di pazze idee, che è quella di stampare l'euro con la nostra zecca. La pazza idea qual è? La pazza idea? È una canzone di... come si chiama la cantante? Pazza idea, da ricordi, bellissimo. È peccato che non ha continuato, Peccato che non ha continuato. Il buon vecchio Ignazione. Regala sempre, Non so se in futuro si chiamerà PDL, incalzato dal TG3. Tu mi chiedi, ci sarà il PDL? Io dico che il nostro obiettivo non può cambiare. Non lo so se si chiamerà PDL, non mi interessa. Stare qui con lui. Poi ha parlato anche di uscita dall'euro, eccetera, eccetera. No, Berlusconi, sempre Berlusconi, Ne ha dette di tutti i colori lì, Ha detto anche a un certo punto, un operaio a Ciampino, quando sono sbarcato, mi ha fermato, mi aveva aspettato apposta un tecnico dell'aeroporto. Mi fido solo di lei, ho 50.000 euro in banca, li devo ritirare? Ti giuro, ha detto così, non è stato ancora riportato, ma me l'hanno riferito, persone fidatissime. Ma la pazza idea è anche quella del CT della Nazionale Prandelli, una follia. Prandelli dovrebbe stare più zitto, però, secondo me, un po' più silenzioso. Con Prandelli, un po' più silenzioso. Sempre comunque. Signor Prandelli, possiamo rinunciare agli europei? Follia del giorno, sentiamo. No, bravo. È difficile, però noi siamo qui oggi per giocare una partita di calcio, e se ci fanno giocare questi europei sicuramente faremo qualcosa di buono per noi, perché abbiamo lavorato, e per i nostri tifosi che aspettano il momento di vedere e di sentire l'inno nazionale. Però, come dicevo prima, se si decidesse di non partire non ci sarebbe nessun tipo di dramma. Beh, insomma, sarebbe una cosa... Per quanto ci riguarda, no. Risentendolo, non è nemmeno una provocazione, è serio. Ma di cosa stiamo parlando? Bravo, di cosa? Fratelli, ma bravo. Che bravo, tu che sei uno che non capisce assolutamente nulla di pallone né di cose di questo tipo, non può esistere nella maniera più assoluta che uno rinuncia a fare i campionati europei, perché ci sono quattro cialtroni che magari si comprano le partite. Ma no, di che parliamo? Brandelli, ma che dici? Cosa dici? Nazionale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sì, in questo momento che cosa? Stanno ponendo il problema della dignità. Ecco la stronzata del giorno delle 18:38. Avanti, la parenzata. Ridare dignità, sì, vabbè, al gioco del calcio. La parenzata, che è stato del giorno. Distrutto apparentemente da un manipolo. Benissimo, di miliardari, calciatori miliardari. Vabbè, l'hai detto, hai la parenzata, capito? Del giorno. Vabbè, l'hai detto alle 18:38. Prandelli, io sto con Prandelli. Va bene, la cosa demagogica del giorno. Come ridare dignità al calcio? Perché non si rubano i sogni. Va bene, hai detto la parenzata. stata la cosa demagogica del giorno. Invece un altro suggerimento, una pazza idea che però non è tanto pazza, la vorremmo dare a quello che sarà a giugno probabilmente il nuovo segretario della Lega, che si chiama Maroni. Beh, insomma, un rimprovero, se non addirittura un'estromissione per questo signor Dordolo. No, andrebbe indagato. Ma indagato, non dire stupidaggini. Non dire stupidaggini. Come no? Io delle cose. Ma non pensare sempre alle manette, ai giudici, alle indagini, ai poliziotti. Uno, se dice una stupidaggine, va estromesso dalla politica, casomai, ma non attraverso i magistrati. Magari venisse allontanato, perché ha detto delle cose. Guarda, sei insopportabile, sei insopportabile. Ieri sera ha detto delle fa ascoltare cosa ha detto da noi ieri. Ma io lo faccio ascoltare. Ma non è per questo che bisogna fare chiamare i magistrati, non dire stupidaggini, su. Il partito dovrebbe allontanarlo, ha detto delle cose inaudite. Ma che c'entrano i magistrati? Cosa c'entrano, no, i magistrati? Ma non dire stupidaggini, Dordolo, defecare nel fiume Gange. Sentiamo, a proposito del fatto che un signore in Italia ha buttato la ammazzata e poi ha buttato la moglie nel fiume, sul Po, lui ha detto hanno inquinato il sacro fiume. Avete capito, Dordolo? Mi è venuta in mente un'analogia immediata, cioè che il Po è il fiume sacro per i padani, giusto? E che quindi questo che aveva fatto? Prima aveva massacrato la moglie, poi l'aveva buttato nel nostro fiume sacro. E allora mi sono detto, vorrei vedere io se noi andassimo a defecare, a sgozzare mucche, vacche e maiali sul Gange, che questi qui erano indiani, cosa direbbero loro? In silenzio. E poi ha detto anche che non si vergogna per niente, Non mi vergogno, non mi vergogno. Va bene, questo era una delle dordolate che vi faremo ascoltare, con un invito che non è stavolta una pazza idea, ma sarebbe una idea ragionevole, al neo leader della Lega, quello che sarà il leader della Lega, Maroni, magari a prendere qualche piccolo provvedimento, forse una chiacchieratina, una telefonatina con questo signor Dordolo. Dordolo, capogruppo della Lega a Udine, Io vorrei capire da un deputato del Partito Democratico, che è anche un grande maratoneta, e che noi gli abbiamo dato già un soprannome, caro Parenzo, lo sai? Sì. Parenzo, lo sai qual è? Parenzo? Sì, qual è? È il Ridge, il bello del Partito Democratico. Sandro Gozzi, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, bene. Mi preparo per la podistica di questa sera, come sapete. Ah, si prepara per la podistica, la invidio molto, Tutto grande lavoro questa sera, grande lavoro, no, alla 8 Camera. Chilometri. No, no, no, no, no, non è grande, sono 8 chilometri. No, dico grande lavoro alla Camera questa sera. Venerdì sera grande lavoro alla Camera, sì. Cioè lei dovete sapere che Gozzi è un maratoneta, ha fatto la maratona di New York come il più veloce tra i deputati, se non mi sbaglio, 3 ore e 38, giusto Gozzi? Esatto, però siamo a 3:30 ormai con Parigi, Ah, Parigi no, 3:30. Bisogna ricordarlo al mio amico e collega Maurizio Lupi, così soffre un po'. Allora, 3 ore e 30 in maratona a Parigi, più veloce tra i deputati. Sì. Esatto. Ma veloce anche a fare le leggi o a correre solo? Boh, a fare le leggi, a presentarle sì, portarle avanti, qualche volta ci riesce, qualche volta no. Scusi Gozzi, però lei nel suo sito c'è una cosa curiosa. Il sito fa schifo, lo sto cambiando. Cosa avete guardato? Quella roba vecchia che ho ancora, sì, lì? Sì, quella roba vecchia. Scrive una cosa curiosa che riguarda la sua nascita. Nato a Togliano al Rubicone, no, sì, 25 marzo 68. Ecco, esatto. Poi dice, nato in casa mia. E vorrei sottolineare che ciò non è successo in ospedale, ma a casa, no, a casa mia. Ma perché l'ha sottolineata sta cosa? Chi se ne frega? Perché sottolinea che è nato a casa piuttosto che... Perché mi piace questa cosa, nato a casa. Tutto bello. E stamattina era a casa mia lì a Togliano, nella stanza in cui sono nato. Mi piace. Perché... Magari non frega niente a nessuno. No, no, ma non è che... Però frega a me. No, no, sì, certo. Però uno quando mette, no, il profilo... simpatico. Perché è un dato simpatico? Volta che ha fatto l'amore, ad esempio, quando è stato invece? Vabbè, adesso ti vuoi chiedere? Non era in quella stanza, in quella casa. Non era in quella stanza, in quella casa, però poteva anche succedere. Avrebbe potuto succedere. Sì. Ma a che età? 15 anni? 16? 18? 17. A 17? Perché ti interessa la prima volta in cui ha fatto l'amore Sandro Gozzi? Scusi, signor Gozzi, lei è vero che è molto... Sito, ma... è vero che è abbastanza corteggio, è uno dei deputati, diciamo, più belli, diciamo la verità, qui siamo alla radio, non si vede... Voi, andate... lo dite voi, Beh, insomma, voi. Una bella faccia, un po' da Ridge, no? Che è più corteggiato di Cicchitto. Beh, se quello sicuramente, beh, sì. Insomma, non ci vuole. Insomma, quella non sarebbe una competizione. Non è possibile. Con tutto, sì, il rispetto, ha altre qualità maggiori delle mie, non so, chiedete a lui quali, ma non questa. Insomma. Senta, Gozzi, oggi lei sarebbe andato a ricevere, non è stato invitato perché molti deputati non sono andati, solamente credo i presidenti delle commissioni, però c'è un po' di polemica spesso sul web, molto sul web, perché poi web, spesso sul web ci sono polemiche che non sono quelle della vita reale. Comunque, su questo ricevimento di Napolitano che è iniziato iniziato credo alle 18, in cui c'è comunque, è stato tagliato qualcosa, però resta un ricevimento con tartine, eccetera, eccetera. Lei sarebbe, lo trova una cosa disdicevole aver confermato qualche giorno dopo il terremoto il ricevimento, nonostante sia stato ridimensionato, oppure no? Ma guardi, se le tartine potessero cambiare qualcosa, fare o non farle, lo troverei disdicevole. Così, insomma, è la festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica invita formalmente le alte cariche dello Stato, credo che sia l'invito. Sì, poi ci vanno un po' tutti, 2000, ci sono imprenditori. Tutti quelli che fanno la fila e si spingono, si spintonano e chiamano il Quirinale per avere un accesso. Sì, questo è vero. È l'evento dell'Italia che crede di contare. 100 euro a testa pare sia costato, Parenzo, cioè, 5.000 bottiglie, frutta, piccoli panini, tartine a volontà, couscous presidenziale, eccetera, eccetera. Però io, couscous presidenziale? Non lo so, dicono che ci sia il couscous presidenziale. Cioè, cosa una ricetta napoletana? Beh, no, un couscous che viene ogni anno dalla festa del 1° giugno, viene presentato e pare che sia molto buono. Diciamo che la quelli del Mediterraneo. Che ne so, può essere. Senta un attimo, ma se ci fosse una lista, non dico capitanata, nelle prossime elezioni, è troppo presto per parlarne, non so, però se ne parla molto in questi giorni, oggi c'è pure un'intervista di Scalfari sul Fatto. Intervista di Scalfari sul Fatto che dice: senza Saviano la sinistra perde le elezioni. Lei che ne pensa? Beh, questo è molto divertente. Cioè, senza Saviano non vincete, questo è il punto, ci crede anche lei? Ma guardi, anche queste come le tartine, cioè se fosse questione di Saviano dentro o fuori, per vincere o per perdere, sarebbe tutto molto più semplice. Io, dunque, non è così? No, ma certo non è così. Io questa lista civica la vedo come il fumo negli occhi, non mi piace proprio per niente. Perché? Perché non mi piace la lista civica dei buoni, belli e puri contro la lista politica del partito, dei brutti, cattivi e della casta. Quindi in realtà è il Partito Democratico che dovrebbe promuovere, come ho detto in questi giorni, delle belle primarie aperte, senza filtri, possibilmente a doppio turno, così tutti coloro. Adesso primarie a doppio turno è un po' complicato. Sinistra, no, ma perché? L'hanno fatto i francesi e adesso Hollande è diventato il modello del Partito Democratico. Ma quello è l'elezione a doppio turno, ma credo che potrebbe farla anche Bersani. Poi Saviano, se vuole entrare in politica, è benvenuto, perché voglio dire, è uno scrittore di successo, ha una grande esperienza nella lotta contro l'illegalità, la mafia, eccetera. Però nel PD. Però che le sorti della sinistra italiana dipendano dall'entrata in politica o no di Saviano. Mi sembra un ma po'. Ma dov'è il problema? Sì, tra l'altro lui ha detto che non gli interessa, no? Ma dov'è il problema? No, però Gozzi ha ragione su un punto, secondo me. Ha detto che oggettivamente questa lista, capitanato o meno da Saviano, comunque con referente Repubblica, come punto di riferimento Repubblica, comunque persone vicine al mondo. La Repubblica non mi sembra tutti d'accordo all'interno. Scusi? Non mi sembra che tutti siano d'accordo all'interno della Repubblica, come spesso capita. No, sì. È una cosa molto, molto scalfariana, con tutto il rispetto, stavolta si sbaglia, insomma. Comunque, è evidente scalfariana che... Scalfariana lo usa come sinonimo di sciocchezza, così, buttata, scalfari, sciocchezza, no, come cosa di Scalfari. Come cosa di Scalfari? Traffico... Se fosse una cosa di Gozzi, direi detto forse, non so, una cosa gozziana. Gozziana. Pazza idea di farla. Ma lei ce l'ha una pazza idea, Gozzi, che non sarà sicuramente quella di uscire dall'euro, sicuramente, o di stampare l'euro, di stampare la sua pazza idea in questo momento, qual è? Fare la gara di corsa? La mia pazza idea stasera è di fare una bellissima performance alla podistica sugli 8 chilometri. È sicuramente quella che non ci sia una... Mi sembra più sana di quelle che ho sentito da voi in inizio trasmissione, perché ne ho sentita due che sono assolutamente... Berlusconi oggi si è inventato che dobbiamo stampare l'euro o uscirci, no? Sì, capito bene? Sì, tutte e due. E poi c'è un altro patto della Lega che ha detto che dobbiamo andare a defecare nel Gange. Sì, perché siccome hanno buttato una donna e hanno toccato l'acqua del Sacro Po, una morta, naturalmente. Il Sacro Po per Dordolo, non so, il karma padano che abbiamo ma lì in quel caso siamo al delirio, in quel caso siamo al delirio. No, siamo al delirio, purtroppo ci siamo spesi in Italia. Ma il delirio anche secondo me di Prandelli, lo dico la verità, lei che è appassionato di calcio, tifoso della Juventus. Ma sì, Prandelli moralista, Prandelli moralista. Sono in Ucraina, in Polonia, che giochino, che vincano e che lasci invece magistrati, federazione calcio occuparsi della questione scommesse, che è abbastanza vomitevole, però non deve guardare Prandelli, insomma, lui deve fare il CT. E dunque non è che può dire giochiamo, non giochiamo. Ma no, ma che dipende, ma Prandelli deve stare in campo e tra l'altro non deve fare invasioni di campo. In questo caso, in che tipo di invasione? No, le ha minacciate. Cioè, in che senso? ha minacciato, ha ragione, che se ci sono dei cori razzisti contro Balotelli in Polonia e in Ucraina bisogna protestare, però lui ha detto che sta organizzando l'invasione di campo. Ah sì, sì. No, deve concentrarsi invece su come vincere sul campo, non invadere. Sì, ma vuol dire, secondo me Prandelli è preso da una smania di protagonismo. Ho visto un'intervista, sono il Monti del calcio, un'intervista rilasciata a GQ, bravo, tutto vestito di bianco. Sono come il moralizzatore, non abbiamo bisogno di ma un... Se Monti voleva sospendere il calcio. Sì, ma infatti c'è una contraddizione, è uscita questa intervista su GQ proprio nel momento in cui Monti diceva che voleva sospendere il calcio. Mi per creare. Manca solo di dire che vuole essere il presidente del Comitato Olimpico Roma 2020, Prandelli. Allora, volevo chiedere però a Gozzi un'altra cosa. Se il segretario del Partito Democratico decide che invece questa lista a fianco del PD ci vuole, lei che cosa fa? Gli dico che sbaglia e continuerò a chiedere, lo chiederemo di nuovo l'8 giugno in direzione nazionale, che bisogna fare queste primarie aperte del centro-sinistra, a cui può partecipare Saviano, Zagrebeschi, Scalfari, chi vogliono, ma la lista civica è la negazione del Partito Democratico. Scusi un attimo, però questa lista civica, voi lo dite un po' perché magari avete paura che vi toglie qualche posto al Partito Democratico. Ma no, perché il punto è prendere voti fuori, il punto è ridare credibilità e ridiventare competitivi come centro-sinistra, come partiti, non è il punto, non è aggiungere l'interista, capito? Cioè, direttamente. Parenzo, se parli mentre parla Gozzi non si capisce, come al solito. No, dicevo una cosa a Parenzo, sì. Devo ripetere sempre le stesse cose. Non ho capito qual è cioè lei dice, se si presenta, adesso mi ha fatto perdere il filo, Parenzo, che devo fare? Allora, se serve aggiungere una lista all'attuale assetto dei partiti? Cioè, il punto non è aggiungere la lista e ritorniamo a riconnetterci con la cittadini e ritorniamo a ridare speranza, mobilità. Il punto è partire dal basso, partire da una mobilitazione popolare, e quindi io vedo le primarie proprio come alternativa alla questione lista civica. Se il tema lista civica è riaprirsi ai cittadini e ricollegare poi dei facciamo cittadini, le primarie. Perché fare la lista, ma cosa serve? E poi tra l'altro secondo me non ci farebbe conquistare voti fuori dal campo della centrosinistra, ma li toglierebbe al partito all'interno, questo non mi sembra che sia molto utile. Cioè li toglierebbe al Partito Democratico, sono gli stessi voti che verrebbero tolti al Partito Democratico o ad altre, sì, o ad altre so, forze. Li toglie al Partito Democratico, li toglie a Italia dei Valori, però non ci vedo proprio il valore aggiunto. Poi voglio dire, Saviano è una bella persona, ma che la novità, che il bisogno di cambiamento, con tutto il rispetto, perché è un grandissimo giurista, ma che il bisogno di cambiamento, no, giurista di... da Zagrebeschi, Zagrebeschi. È difficile scrivere il suo nome, ma nel senso non devono scriverlo in italiano perché non sono le preferenze, però voglio dire, cioè, il cambiamento è veramente il cambiamento, non può essere interpretato da autorevoli personaggi che però non mi sembrano rispondere alle esigenze. Ma nemmeno Scalfari da questo bisogno di rinnovamenti e cambiamenti. Nemmeno Democratico, deve fare le primarie. Sì, ma nemmeno Scalfari da questo punto di vista. Cambiare al suo interno, rinnovare veramente al suo interno. Nemmeno Scalfari da questo punto di vista è cambiamento, no? Ma certo, Scalfari però non credo che lui stesso voglia presentarsi, no, e interpretare il nuovo. Fa interviste in cui promuove, no? Ha il diritto di esprimere le sue opinioni, lo fa in maniera autorevole. Il punto è che se i cittadini vogliono... Cioè vi dà lezioni, questa è la sostanza, vi dà lezioni Scalfari? Sono accettabili le lezioni da Scalfari o no? Sono lezioni per chi si sente di dover prendere lezioni, per me sono delle idee, sono delle posizioni autorevoli, se ne prende atto, si confronta, a volte si d'accordo, a volte no. Io su Scalfari, sulle analisi che ha fatto ad esempio sull'Europa in questi mesi, ero molto d'accordo, sulla lista civica sono in totale disaccordo, però è chiaro che sono in totale disaccordo perché chiedo un vero cambiamento nel partito. Parenzo? Cosa che no, non c'è dico ancora. Che vi rende nervosi la lista civica per le ragioni illustrate a testé dal direttorismo Cruciani, dopodiché dovreste chiedervi come mai questi qui non si candidano con voi, e questa è l'unica cosa, no? Se sentono l'esigenza di fare una cosa loro, evidentemente si sentono forti e vedono il PD debole. Questa è la realtà. Infatti io su questo sono molto d'accordo, e proprio perché credo che se il PD avesse mantenuto la sua promessa, questi vorrebbero candidarsi con noi. Io voglio che il PD, e perché vi vedono come sporchi e cattivi, questo che si apra, che faccio delle primarie, che permette a tutti, no, ma questo l'ho capito, questo l'ho capito, però mi sa che vi vedono come sporchi e cattivo, e anche che cambi i principali dirigenti che sono lì da 20 anni, e occorre che D'Alema pare sia d'accordo. D'Alema, beh, sarebbe la prima volta che siamo d'accordo. No, D'Alema pare che sia d'accordo su presentare questa lista civica, appunto. Ma voglio dire, io io non voglio pensare male. Ma chi è che non si deve presentare? Scusi. Ti ricordi cosa diceva Andreotti, no? Sì. Pensare male si fa peccato. Ma a volte si azzecca. Io non voglio pensare male, però che ci sia una lista civica dei buoni, una lista del Partito Democratico, e magari nella lista del Partito Democratico la facciamo senza fare delle primarie per tutti, sì, e ci mettiamo solo, diciamo, la vecchia classe dirigente, non mi sembra un grande affare per nessuno. Ma D'Alema si deve ricandidare, secondo lei? 20 secondi, si deve ricandidare o no? Ma secondo me no, secondo me dovrebbe Beltroni? Aspirare. Beltroni? Neanche, no. Per cui qual è il limite? I due mandati, tre mandati? Lei ne ha due. Il limite con questa, guardi, con questa legge elettorale, sì, il limite sono tre mandati senza deroghe per nessuno. No. Se cambiassimo legge elettorale. Ho il giornale radio. Colleghi, ho il giornale radio. Subito Massimo da Grosseto qui alla Zanzara, non c'è più, e allora i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Borse europee a picco, paura per la Spagna, Piazza Affari tocca il minimo storico, vola lo spread, REN, l'eurozona rischia di disintegrarsi. Sempre più disoccupati, 10,2% ad aprile, il tasso più alto dal 2004, giovani e donne più penalizzati, Monti l'Italia ce la farà. Ancora scosse nell'Emilia terremotata, paesi fantasma, campagne abbandonate, l'economia in ginocchio nei paesi dell'Emilia con la voglia di ricominciare. Napolitano, lo Stato c'è, l'impegno non mancherà, unità e solidarietà in tempi dolorosi, dice il capo dello Stato nel messaggio per il 2 giugno. Berlusconi ha una pazza idea, stampiamo euro con la nostra zecca, poi al partito stiamo insieme o perdiamo. Montezemolo, non imbarchiamo naufraghi. Calcio scommesse, dopo l'informativa della finanza sulle scommesse di Buffon, Prandelli dice se serve non andiamo agli europei. Il ministro Cancellieri, andate e giocate bene. Allora, una delle follie che ho ascoltato oggi viene dal presidente dei petrolieri italiani. Senti, signor De Vita. De Vita mi sembra si chiami, eh? Sì, De Vita. Siamo disastrati, vedremo cosa fare. Sai che c'è la storia delle accise, no? Con il governo che incredibilmente chiede alle compagnie petrolifere una sorta di elemosina, no? Cioè, sacrificio, un piccolo sacrificio. Appunto, ma non è il governo che chiede un sacrificio ai petrolieri, è una cosa ridicola questa cosa qua, questa richiesta. Tu sai bene, tu sai. No, però non. Allora, la richiesta del governo. Per te è tutto ridicolo, io ti adoro perché. Va bene. Perché allora, fa bene il governo a chiedere ai petrolieri invece di abbassare il prezzo della benzina invece di agire in un altro modo. E va come bene. Può fare se li tassa questi altri? No, veramente un modo ci sarebbe non aumentare il prezzo della benzina. Primo, se proprio decidi di aumentare il prezzo della benzina, poi non puoi chiedere due secondi dopo ai petrolieri di fare la loro parte, perché quelli fanno il gioco loro, è evidente, no? Quello non, no, perché quello comunque non incide nelle spese che loro hanno, perché sono soldi che vanno allo Stato, mica a come non petrolieri. Voglio dire, loro chiede ai petrolieri di abbassare sostanzialmente, sì, i loro margini di profitto sulla benzina. Per farlo, ma non ci sono miliardi di altri mezzi, non il punto non è quello. Il punto è aumenti la benzina e poi chiedi la testa dei petrolieri, cioè inviti il popolo a dire stronzi questi petrolieri perché non vogliono abbassare il prezzo della benzina. Cioè questa è la sostanza, no? Poi comunque il governo non è che chiede ai petrolieri, è una cosa ridicola il solo chiedere ai petrolieri, perché significa non sappiamo che fare, chiediamo ai petrolieri di abbassare il prezzo della benzina. Comunque la risposta di De Vita, l'oggetto della discussione era questo, la risposta di De Vita è incredibile, cioè perché dice siamo disastrati, ma come siamo disastrati? I petrolieri sì, avranno ridotto i profitti in questo periodo, d'accordo, però insomma disastrati mi sembra una parola un po' grossa, caro De Vita, presidente dei petrolieri italiani, no? Mi auspico che la situazione sia tale che consenta loro di fare qualcosa, perché lei sa che le aziende petrolifere purtroppo in questo momento sono in condizioni dal punto di vista economico disastrate. Però noi abbiamo trasmesso questo messaggio fiduciosi che qualcosa le aziende recepiscano. Beh, insomma, disastrate, disastrato è qualche è un'altra cosa. E qualcun altro disastrato, signor De Vita, non sono le compagnie preferite petrolifere, su, siamo seri. Beh, la russa che canticchia, passa idea, lo voglio rimettere, sì, via. Sì, sì. La pazza idea qual è? La pazza idea? Eh? È una canzone di, come si chiama la cantante? Pazza idea, te la ricordi, bellissima. benvenuta nel mio spazio sotto il sali. Il sindaco di Civitavecchia di un attimo solo, sull'erba batto spesso di sicoria. Suona il telefono della Zanzara. Tutti si stanno fugando in tasca. E vabbè, non rispondono. Ma chi è? Dopo te lo dico. Vabbè, intanto il sindaco di Civitavecchia Tidei dà della carogna ad Inolfi, a quelli sui blog che lo invitavano alle dimissioni mentre qualcuno gli bruciava la macchina. Sentite. Siccome io, prima ancora di essere nominato e prima ancora di essere addirittura insediato, già imperversava sui blog una valanga di richiesta di dimissioni. Io non mi ero ancora insediato. Lei pensi, sul piano umano, che razza di carogne, posso dire, lo dico con grande chiarezza. Mentre mi bruciavano la macchina, dopo due ore la mia dichiarazione di elezione, imperversava sui blog l'invito a dimettermi immediatamente. Allora, ancora non ero neanche letto. Siamo agli insulti qui, anche perché chiama poi Adinolfi, che gli dovrebbe subentrare alla Camera come deputato del Partito Democratico, giocatore di poker. Senti. Lei deve stare tranquillo e tranquillizzare il giocatore di poker di professione, che per quanto mi riguarda ho 42 anni di presenza nelle istituzioni in piena trasparenza, e d'altra parte vengo eletto anche per questo. Venga presente che sono stato il sindaco più votato d'Italia nel 98, quindi la mia, non c'ho nessun attaccamento. Allora sentite come in Parlamento, in realtà poi ci sono dei tempi tecnici per dimettersi, perché la giunta per le autorizzazioni deve formalizzare l'incompatibilità, eccetera, eccetera. Vabbè, ho detto che è arrogantello nei modi, ecco. Sì, ma, io ho 42 anni, lei gioca a poker, ma come si permette? ma come si permette, direbbe Cacciari, come si permette? E se gioca a poker ad Inolfi, qual è il problema? Lo dice in modo che lei gioca a poker. Lei intanto si dimetta, visto che ha il doppio incarico. Ma sì, ci devono essere dei passaggi formali, sostiene lui. Adesso arriva Cruciani con i passaggi formali. No, ma sono dei passaggi formali che la Camera deve certificare l'incompatibilità. Ma cosa ci vuole? Mi sembra un burocrata. Ma non sto difendendo, non è lui, è la Camera che è aggiunta per. Anche questa Camera mi ha stufato. Sì, sono dei tempi troppo lenti, certo. Sono dei tempi troppo lenti. Ti dimetti, mandi una lettera, domani non sei più deputato. Perché tutto deve essere complicato? Hai ragione su questo, hai ragione. Dordolate varie. Sai che mi viene, io chiudo, quando lo mandi, io adesso esco 10 minuti mentre tu mandi questo qua della Lega. I musulmani, tutto partiva da una signora musulmana che ha rifiutato il mestolo, ha rifiutato la padella, ha rifiutato il cibo perché la padella forse era stata contaminata dalla carne di maiale. Hai ragione, ci vuole rispetto per le altre religioni. Allora, sì, d'accordo, però non ci farà adesso la predica. Il signor Dordolo che ha detto che i musulmani vanno massacrati a mestolate sul grugno, senti. Lei ha fatto un'altra dordolata, la musulmana terremotata che ha rifiutato il pasto perché il mestolo era contaminato. Cos'è che ha scritto su Facebook? Che vanno massacrati a mestolate sul grugno. Le mestolate sul grugno! E sentite come la pensa sui matrimoni gay, eh? La concessione del matrimonio gay darebbe vita ad altre deviazioni, tipo? Chiamiamole così. Tipo? Tipo l'amore incestuoso, tipo queste cose qui. L'amore incestuoso e poi? Non ricordo adesso che cosa altro ha detto. Però La pedofilia? La pedofilia, per caso? Sì, anche. Pazza idea per Maroni. Cosa vogliamo fare con questo signore? Con il signor Dordolo. Luca da Roma, 800 24 00 24. Abbiamo appena iniziato, questa è la Zanzara, cari ascoltatori. Voglio grande battaglia questa sera, sono carichissimo, Luca. Sì, mi sente? La sento molto bene. Io sono d'accordo sul concetto espresso. Quale dei tanti? E da chi? Da Dordolo. Ah, lei è d'accordo con Dordolo? Mi spiego meglio. È arrivato il pazzo, è arrivato il primo pazzo della serata. Non cominci così, scusi, stia almeno ascoltare quello che devo dire, no? Beh, sì, no, ma uno che inizia così, c'è poco da ascoltare, c'è da vomitare, basta, comunque. Prego. Beh, vomiti e poi vai. E infatti prendo un sacchetto intanto. Prendi un sacchetto intanto. Prendo un sacchetto, se no, che devo dire? No, scusi Luca, adesso prendo un sacchetto, Parenzo, per vomitare, intanto lei dica. Ho i conati. Vabbè, se si mette allo specchio, magari così fa tutt'uno, insomma, ecco. Non allora, ho la sua fotografia. No, perché lei dice che vomito io, per quello che dico, allora posso dirglielo di lei, mi scusi, il rispetto deve essere reciproco, giusto? Ma uno può avere rispetto se uno dice che è d'accordo. A me definire che quello che devo io è una cosa da vomitare, credo che non sia molto rispettoso. Se mi fa dire quello che è d'accordo. Se lei è d'accordo con Dordolo, io dico che viene da vomitare. Ho detto che devo specificare. Specifichi, allora, non c'è nulla da specificare. La frase è sbagliata e inappropriata per il contesto. E ha fatto un esempio anche rispettoso parlando del defecare. Questo è sbagliatissimo e denota l'assoluta incompetenza della persona. Ma perché ci riflette su questa cosa? Non capisco. Io volevo invece sottolineare una cosa importantissima. E che noi dobbiamo pretendere il rispetto delle nostre tradizioni, del nostro paese, perlomeno come gli stranieri pretendono nel loro. Ma cosa c'entra? Scusi, qui è successa una cosa molto semplice. Un signore ha ammazzato la moglie per motivi che non mi interessa nemmeno elencare e poi l'ha gettata nel Po. Punto. Cioè una roba che poteva accadere anche a una coppia italiana o comunque a una coppia di origine italiana, come lei può notare nelle cronache dei giornali. Sono d'accordo con voi. Un signore che fa il capogruppo della Lega Udine se n'è uscito con una cosa di una che definire stupida forse addirittura poco. Sono d'accordo con lei. Ma allora cosa c'è da commentare? Non ho capito. Sto dicendo che invece nel contesto sbagliato il concetto di fare rispettare il proprio paese dagli stranieri è fondamentale. Ma quello lo diciamo. Ma perché lei applica questo discorso? Perché lo spirito di Dordolo, secondo me, è fuori luogo nel contesto. Ma non c'è nessuno spirito, non c'è nessuno spirito, ma non c'è. Questo argomento non ci sentite proprio. Bah, perché noi stiamo qua a farci massacrare perché un militare stupido strappa una pagina del Corano e poi i musulmani si fanno saltare per aria le moschee con tutti i musulmani dentro e decine di Corani. Però lì stanno zitti e noi invece ci criminalizzano per delle cazzate e stiamo sempre in difesa nei confronti degli stranieri. Ma chi è in difesa? Qui non c'è da essere, qui c'è in difesa. Qui bisogna essere in difesa del cervello, della razionalità, in difesa della logica. No, ma sbagliato nel contesto. Io volevo sottolineare. Ma non c'è nessuno, ha sbagliato tutto. Ha sbagliato. La frase è sbagliata. E allora perché? Io volevo dire quello, cioè volevo cogliere l'occasione per dire questa. È un'occasione sbagliata. È un'occasione sbagliata. Spero che qualcuno ci pensi, insomma. Vabbè. Solo questo. Penseranno i medici quando lei sosterrà questa cosa, guardi. Guardi, si sposti, mi faccia posto in camera che vengo vicino a lei subito. C'è camera dell'ospedale. Solo posto in piedi, guardi, ormai. Solo posto in piedi, meno male. Solo, c'è proprio il reparto Zanzara, c'è in tutti gli ospedali italiani ormai, certo. Reparto ascoltatori Zanzara. Perfetto. Comunque ci vediamo lì, non si preoccupi che va per bene. Fortuna la vengono già a prendere subito. Certo, certo. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle. Rutelli. Francesco Rutelli, se il Senato salva Lusi, arrivano i forconi, cioè se non lo arrestano, arrivano i forconi. Io devo dire che, nonostante che il comportamento di Lusi in questi mesi sia stato quello che sia stato, quest'idea che debba andare per forza in galera, va in galera, secondo me, quando ci sono le condizioni perché vada in galera, e a mio parere ci dovrebbe andare quando è stato condannato definitivamente. Però, comunque, Rutelli lo vuole in galera subito. Non è che lo vuole in galera. Registriamo che Rutelli lo vuole in galera subito. Io non faccio l'esegesi di Rutelli. Rutelli dice una cosa molto strana. No, se il Senato lo salva, cioè da che cosa? Dalla richiesta di arresto, immagino. C'è una richiesta da parte della magistratura. Certo, quindi, di arresto. I magistrati deve andare in galera. Ho capito. Ecco, non secondo il codice Cruciani, perché no. È il codice da Cruciani, dopo quello da Vinci. Possiamo fare anche il codice da Cruciani, ma il codice da Verdini. Come sarebbe il codice di Verdini? Come sarebbe? Ma Rutelli dice: voglio Lusi in galera. Lui dice: voglio Lusi in galera. Sarebbe incomprensibile alla maggior il Senato, parte degli italiani. Se il Senato rifiutasse, se esatto, il Senato rifiutasse. Questo dice, che è una cosa di buon senso. Rutelli. Confido che nessuno sottovaluti il fatto che se per caso il Senato si ergesse non a tutela dello Stato di diritto, ma di qualcosa che certo non è qualificabile come tale, io penso che davvero i forconi qui fuori arriverebbero. I forconi fuori dal Senato, se se, no, se lui si dovesse, non dovesse andare in galera, perché Rutelli dice sta facendo lobby per evitare l'arresto, per evitare l'arresto. Toscani, Grillo parla come un nazista, Grillo come Hitler, sentiamo. Adesso andiamo avanti a parlare di questi grillini, ma grillini cos'è in fondo? Cioè Grillo dice delle cose forse anche ecologicamente corrette, ma le dice con uno stile da Goebbels, da Terzo Reich. Quindi io non riesco a capire come si possa parlare di certe cose con un atteggiamento nazista. E poi la frase del giorno, la rinuncia agli europei. Se qualcuno ce lo chiede, noi siamo pronti anche a non fare l'europeo. L'ultima follia di Prandelli, secondo me. È difficile, però noi siamo qui oggi per giocare una partita di calcio, e se ci fanno giocare questi europei sicuramente faremo qualcosa di buono per noi, perché abbiamo lavorato, e per i nostri tifosi che aspettano il momento di vedere e di sentire l'inno nazionale. Però come dicevo prima, se si decidesse di non partire non ci sarebbe nessun tipo di dramma. Beh, insomma, sarebbe una cosa... Per quanto ci riguarda, no. Ecco, folle idea, questa sì, eh. Antonio da Napoli, 800240024, Antonio, dica. Pronto? Sì, dica. Signor Cruciani, buonasera, che piacere parlare con lei. Sì, vada. Prima di tutto devo dire, ma come fa a dare tanta confidenza a quel tipo di sette nani che ha parlato, capogruppo della Lega, là? Sì, lei ha l'auricolare al viva voce? No. No, va bene, come faccio a dare tanta confidenza? L'ho semplicemente chiamato a ripeterci per voce le stronzate che aveva scritto sul suo profilo Facebook. Che fa? Le ripete pure lei le stronzate? Ma qual è il problema? Che problemi ha lei, Antonio? Non ho capito. No, non ho problemi. E allora le ascolti, ascolti queste stronzate e poi le giudichi. Sì. Cioè ascolti queste cose che scrive il signor Dordolo e poi le giudichi. Qual è il problema? No, è una questione che non si devono divulgare queste notizie. Ma io divulgo quello che mi pare, ma lo dice lei che non bisogna divulgarle, chi l'ha detto? Ma lo dicono tanta gente. Ma chi lo dice che non bisogna divulgare queste cose? Chi lo dice? Bisogna vedere come uno le divulga. Bisogna vedere come uno le divulga. Per esempio, questa storia di Dordolo va divulgata alla grandissima, per far intervenire qualcuno, altrimenti se viene, come dire, ignorata, è ancora peggio. Bravo. Ma dico io, se quella persona giustamente ha rifiutato il cibo perché era legione così e andava presa... Ma non c'è bisogno, Antonio, no. Non c'è bisogno che lei parli di quello che ha detto Dordolo o comunque dia addosso... No, io prenderei ad Aspen per dire italiano sul muso a lui. Sì, ecco, questa è la cosa peggiore che lei... è la reazione peggiore che si possa avere, cioè quella di mettersi sullo stesso piano del signor Dordolo. Vabbè. Ma mica possiamo essere sempre insultati da questi facinorosi della Lega. Ma i facinorosi della Lega? Si sono visti quelli che hanno fatto, hanno rubato dappertutto pure loro, quindi nel calderone ci stanno pure loro. Va bene, Antonio, grazie. Carlo da Milano, buonasera. Buonasera, aspetta che sto con l'auricolare. Vada. Si sente? Sì. Si sente? La sento, dica. Oh, buonasera. Ma intanto complimenti a voi due che siete una coppia fantastica. Poi? Poi, seconda cosa... Vorrei che lei facesse outing. Su che cosa, scusi? Ma sul fatto che lei sostanzialmente, inconsciamente o consciamente, lavora per il governo Monti. Lavoro per il governo Monti. Questa mi è nuova. Sa perché? Sì, perché? Allora, io la seguo con attenzione. Lei è una persona molto, molto intelligente, differente di quel vecchio voyeur di Parenzo, no? Sì, voyeur. Tanto allora, si permette di dirmi vecchio. Poi... Ah, voyeur però siamo d'accordo. Beh, voyeur è anche un'attività interessante, dipende da cos'è. Ecco, lei secondo me non si rende conto, o si rende conto che il 75% delle persone, dei politici... Perché il 75%? A grandi linee, che invita in trasmissione... No, è curiosa questa cosa. È curioso il 75%. Sì. È curioso il dettaglio del 75%. No, stasera ha invitato una persona quasi normale, direi, in trasmissione. Ma il 75% di quelli che invita, cioè a partire da Giovanardi l'altra sera, o io mi ricordo... una puntata cult, quella con la russa che parlò delle farmacie, se la ricorda? Sì, allora? Delle farmacie, ecco. Non mi ricordo. È la russa. Sì, no, ma nel senso che vuol dire, dicono delle cose che secondo me ci costringono ad appoggiare il governo Monti, dice lei. No, ma io non sono un montiano, però devo dire una roba, io non so se lo fa consciamente o inconsciamente, ma tre quarti di quelli che vengono lì dicono delle cose che alla fine uno dice ci teniamo... questi disperati di tecnici. Ah, in questo senso sono. Io mi domandavo se lei lo fa consciamente o inconsciamente. Bah, no, alcune volte lo faccio scientificamente, altre volte viene da solo. Grazie Carlo, grazie, grazie. Massimo da Grosseto, buonasera. Sì, buonasera. Una cosa semplicissima. Prima di tutto volevo ricordare a tutti che comunque l'Ucraina è stata preferita all'Italia per organizzare gli europei, in quanto più affidabile. Questa comunque era giusto una parentesi legata al calcio. Questa è una stupidaggine, poi, che fu un'operazione di lobbying diversi anni fa, di cui ancora paghiamo le conseguenze per diversi motivi. Comunque è stata preferita all'Italia, ora gli motivi sinceramente... Vabbè, allora... E poi volevo capire questo, perché tutte le volte che ci sono degli interventi di persone che denunciano una situazione ormai limite in Italia, io parlo della parte del paese che è nel mercato, che non vive di tariffe o non vive sotto l'apparato statale, e tutte le volte che intervengono queste persone lei minimizza, come minimo le fa passare da pazze. Non ho capito a questo punto lei con chi si confronta generalmente. Guardi, dipende dalle persone che cosa dicono, che cosa espongono, su cosa riflettono. No, perché mi sembra che a volte non colga, ecco, il momento reale del paese. Poi, per carità, e quale sarebbe il momento reale del paese? Distruggere tutti, portare tutti al patibolo, no. I tribunali popolari di Grillo? Qual è la risposta? Questa qua? No, questo no. E allora? Volevo fare una premessa semplicissima: tutto il paese non è in crisi di partita, per carità, perché chi vive appunto con uno stipendio fissi o comunque altre rendite ha una visuale diversa, però ci sono delle situazioni che non sono più sostenibili. E volevo ricordare, e poi termino, che fortunatamente questa rabbia è stata anche accettata da un partito, da un movimento come quello di Grillo. Va bene. Perché pensa se succedeva che magari veniva ascoltato un movimento più estremo. La teoria che Grillo in qualche modo istituzionalizza la protesta. Bene, grazie. Mario da Cremona. Massimo, grazie. Mario da Cremona. Buonasera, Cruciani. Dica. Senta, io l'avevo chiamato per delle cosine da dirle, però prima volevo dirgli una cosa. Siccome lei è molto simpaticissimo, a settembre... Come sono, Cuba, scusi? Come sono? Simpaticissimo. Siccome a settembre vado a Cuba, le porto il busto di Fidel Castro. Ecco, me lo porti, sì. Mi farebbe piacere. Visto che lei è un collezionista, se lo trovo. Io ero ieri in macchina, ho ascoltato la trasmissione e sentivo il popolo, il tribunale del popolo. Ma cos'è sul tribunale del popolo? A me lo dice Mario, che ne so. Cioè, io ho un'idea migliore, magari sarò un pazzo, non lo so. E qual è la sua idea? Magari, sì. La mia idea è su Twitter fare una raccolta di 5 euro a testa, comprare 1000 leoni e automaticamente... invitare tutti i politici a Colosseo, chiudiamo le porte e li facciamo stranare, così nel 2013 chi verrà. Quando le è venuta in mente questa follia, scusi? Ma è venuta ieri, così almeno facciamo un po' contenti tutti. Cioè, ma è venuta 2013, ieri, nel 2013, ma non l'hanno ancora ricoverata? No, nel 2013 chi verrà a prendere il posto di questi signori almeno si renderà conto com'è il popolo italiano. È una buona idea invece del tribunale, perché è sta storia? No, meglio il Colosseo con i leoni, no? Non è meglio. Meglio il Colosseo riempito da leoni. Ma io non so se lei è ironico oppure dice sul serio, adesso non riesco ancora a capire. Ma sono ironico, ci mancherebbe altro. Ma loro vengono i politici, basta che noi gli diciamo che ci sono i giornalisti e c'è da mangiare, il buffet, loro vengono, ma se non si rende conto va bene. Quindi. Grazie Mario, 800 24 00 24. Clinico Gemelli, va? Prima del prossimo ospite, cosa voglio farvi sentire? Voglio farvi sentire una dordolata. Vogliamo sentire di nuovo una dordolata? Sì, sentiamo Dordolo e il defecare nel fiume Gange, su. Che Dordolo è di Udine, più una zona vicina a quella dell'ospite che fra poco interverrà la zanzara. Mi è venuta in mente un'analogia immediata, cioè che il Po è il fiume sacro per i padani, giusto? E che quindi questo che aveva fatto? Prima aveva massacrato la moglie, poi l'aveva buttato nel nostro fiume sacro. E allora mi sono detto, vorrei vedere io se noi andassimo a defecare, a sgozzare mucche, vacche, maiali sul Gange, che questi qui erano indiani, cosa direbbero loro? Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora in... È con noi l'avvocato onorevole Maurizio Paniz. Buonasera, PDL. Eccomi, buonasera. Eccoci, avvocato, grande, come sta? Tutto bene, tutto normale. Allora, avvocato Paniz, dove si trova? A Belluno dalle sue parti oppure? A Belluno. A Belluno. Non è andato oggi alla riunione di Berlusconi con i parlamentari italiani? No, riunione. No. Non è andato. Come mai non è andato? Perché ho delegato uno dei miei colleghi a riferirmi puntualmente quello che sarebbe accaduto. Credo che sia abbastanza giusto, nel senso che ci sono degli impegni sul territorio, domani è la festa della Repubblica, io voglio essere presente alle varie manifestazioni, oggi avevo delle visite programmate nel territorio, quindi le ho delegato qualcuno a riferirmi, questa è la cosa. Ma diciamo la verità, anche perché era tutto finto. Lei è sempre molto sincero, questa riunione è stata creata, è stata organizzata per evitare, per carità, può essere anche un legittimo modo di difendersi, per evitare l'interrogatorio al Tribunale di Milano in coincidenza con la visita del Papa, sì o no? Me lo dica sinceramente. Francamente non credo che sia questo lo scopo, perché credo che tutto sommato al Presidente Berlusconi del processo di Milano non debba interessare più di tanto. Perché? Io ho già detto da questi microfoni molte volte che le mie previsioni sono per una soluzione piena, e lei ricorderà che avevo detto la stessa cosa anche con riferimento alla vicenda Mills. La sentenza è stata depositata ed è molto chiara nel dire che se il Presidente avesse rinunciato alla prescrizione sarebbe stato assolto. Però scusi, avvocato Paniz, c'era una coincidenza con la visita del Papa, sarebbe stato imbarazzante Berlusconi in tribunale, eccetera. Se ne discuteva nei giorni scorsi con i suoi consiglieri avvocati, se ne è discusso, questo è una cosa che è filtrata, si sapeva. Guardi, io credo che non sia più di tanto rilevante. Alla fine di questo procedimento al popolo italiano interessa davvero molto poco. No, ma voglio dire, è vero o no che questa riunione è stata utilizzata per dire non possiamo venire a Milano? A Milano. No, io credo che il Presidente Berlusconi abbia molto a cuore le sorti dell'Italia e le sorti del Popolo della Libertà. Il Popolo della Libertà è una componente importante nel panorama politico, una riunione di programma era già stata impostata da tempo, è stata scelta questa data, mi pare da epoca non sospetta, cioè molto prima che venisse fissata l'udienza, e in fondo lo spostamento d'udienza mi pare sia assolutamente irrisorio, perché da oggi andiamo a venerdì prossimo. No, ma scusi, quindi mi pare che non sia un grandissimo problema. Avvocato Paniz, la domanda è questa: l'incontro di oggi è davvero un legittimo impedimento? Cioè, non prendiamoci in giro. Guardi, la sensibilità del collegio giudicante è stata molto apprezzata anche da me. Io non avrei considerato questo un legittimo impedimento, però credo che nell'ambito di rapporti istituzionali corretti la sensibilità del tribunale vada apprezzata. Io ho avuto molte volte occasione di avere rapporti con tantissimi magistrati con i quali il dialogo serio, il dialogo corretto qualche volta porta a una valutazione anche estensiva del concetto di Sennò, altrimenti uno si può inventare una riunione in qualsiasi momento. Questo è fuori di dubbio, però credo che lo spostamento di 7 giorni in un processo che non ha prescrizione fra 10-12 anni o qualcosa del genere, forse di più, non crea assolutamente nessun tipo di problema all'andamento corretto della giustizia. Senta, ma l'ha sentita qual è? Le hanno riferito alla pazza idea di Berlusconi, una delle pazze idee. A parte, insomma, secondo lei c'è bisogno. Non so se sia pazza l'idea. Insomma, stampare l'euro con la zecca, abbia pazienza, onorevole. Ma Paniz, guardi, l'onorevole Berlusconi molte volte, prima da imprenditore, ma innanzitutto poi da ci vogliono pazze idee o no? No, non ci vogliono pazze idee. Cioè, abbiamo ancora bisogno delle pazze idee di Berlusconi? No, non abbiamo bisogno delle pazze idee di Berlusconi, abbiamo bisogno di qualche idea importante per modificare l'andamento dell'economia nel nostro paese. E questa idea può essere stampare con la zecca l'euro? Io credo che alla fine l'idea di Berlusconi di coinvolgere in maniera significativa l'Europa a stampare moneta non sia un'idea così banale. Il Presidente Berlusconi molte volte nelle sue imprese prima e anche nell'attività politica ha spesso inventato delle soluzioni che ad altri sembravano assolutamente anomale e che poi si sono rivelate vincenti. In questo momento è difficile fare una valutazione, però se noi pensiamo che la borsa perde anche oggi ha perso molto, sì, e ha perso per effetto di un decimale rispetto alle previsioni della disoccupazione degli Stati Uniti. Però, erano previste all'8,1, è stato accertato che sono all'8,2, e da qui abbiamo perso miliardi di euro. Sì. Io credo che alla fine qualche idea di quelle forse stravaganti ma importanti sia assolutamente necessaria nel nostro paese. Insomma, non si va avanti soltanto aumentando di 2 centesimi la benzina. No, quello d'accordo, però non c'è bisogno di stampare moneta con la zecca, abbia pazienza. Non è mica detto che non sia un'idea da prendere in considerazione. A Napoli già gli euro si stampano, tra l'altro, lei lo sa, beh, questa è una battuta naturalmente, però già li... Sì, perché se noi napoletani si offendono, e non sarebbe giusto perché è una città bellissima. Già li stampano gli euro. Cioè, e poi vanno in galera naturalmente, no, ma anche dirlo, eh. No, certo, chi stampa euro sì, però insomma mi sembra che ancora tutto ruoti intorno a Berlusconi, c'è anche no, questo da non dire. Non è che tutto ruota, guarda, il presidente Berlusconi è stato ed è un fuoriclasse, qua è inutile discutere, quindi è chiaro che i fuoriclasse i colpi di genio li hanno sempre. Baggio, quando ha lasciato la nazionale, non per questo non era un fuoriclasse, ha continuato a esserlo anche quando ha giocato nel Bologna o nel Brescia, eppur essendo non giovanissimo ogni tanto inventava dei colpi assolutamente da maestro, da fuoriclasse. Dunque, diciamo, è la realtà. Berlusconi è come Baggio, che non è più, diciamo, presidente del Consiglio, dunque non è più in una grandissima squadra, non è più in nazionale, è al Bologna o al Brescia. Perché il PDL però si è un po' ristretto, però rimane sempre un fuoriclasse. È un fuoriclasse ed è un campionissimo. I fuoriclasse i colpi di genio li hanno sempre. Però c'hanno anche dei colpi da matto, No, questo non mi permetto di dirlo, né per Baggio né per Berlusconi. No, dei colpi da matto, nel senso, hanno anche dei momenti di appannamento, hanno anche dei momenti in cui fanno delle mattane. Noi abbiamo dei momenti di appannamento. Anche per voi le serate non sono tutte identiche. Non sempre azzeccate gli ospiti. Assolutamente. Anch'io qualche volta non invento le difese che diventano immediatamente vincenti, perché non riesco a cogliere magari subito quello che può essere un profilo importante. E Berlusconi che momento in un processo? Berlusconi, come le ho detto, può darsi che abbia inventato una delle sue genialate proprio oggi, e può darsi che invece abbia qualche momento di stanchezza rispetto al grande impegno che ha dedicato in passato alla vita della nazione. Intanto ha bastonato indirettamente i famosi formattatori del PDL, Parenzo, dicendo sì, sono dei giovanotti, però ci vuole governare il paese è un'altra cosa, quello ha detto. Hanno criticato. Ma questo, anche si può dire genio. Possiamo essere perfettamente d'accordo, perché governare il paese è molto più difficile che non governare un comune o governare da assessore un settore di un comune. O stare quindi sul web. O stare sul web, dove è tutto facile o comunque tutto comprensibile, si hanno consensi e dissensi, ma la platea è molto diversa rispetto ai risultati. E come li definisce questi formattatori lei? Velleitari? Io rispetto, come lei sa perfettamente, il contributo di tutti. Loro danno un contributo alla crescita e alla vita del PDL, vanno apprezzati per quel tanto, non sono la rivoluzione straordinaria del nostro partito e non sono nemmeno da buttare via, quindi vanno apprezzati per quello che possono fare. Lei è molto, molto moderato, è molto democristiano. Tra un attimo, dopo la pubblicità. Siamo qui, 800 24 00 24. Sai come ha liquidato, Parenzo, Pier Ferdinando Casini la pazza idea di Berlusconi di stampare l'euro dalla zecca di Stato in Italia, di far stampare l'euro? Ha detto: ma di cosa stiamo parlando? Come noi. Scriva proprio così, alla domanda su questo io rispondo: ma di cosa stiamo parlando? Onorevole Paniz, lei è una persona equilibrata, una persona fa l'avvocato, una persona seria, io la conosco bene, come fa a dire che Berlusconi è un fuoriclasse e potrebbe averci azzeccato anche in questa cosa? Questa cosa qua è palesemente una stronzata. Mi permette di avere un'opinione diversa? No! Io gliene ho citata una prima, che era vicenda Mills, dove voi mi avete messo più di una volta sotto accusa. Affettuosamente sotto accusa, perché io segnalavo che la prescrizione sarebbe stato un danno per Berlusconi. No. E voi mi avete detto: ma come, se l'Italia intera pensa che in realtà non sia un danno ma sia un vantaggio? No. È uscita la sentenza e la sentenza dice però, che la prescrizione è... Secondo lei veramente una soluzione a tutte le difficoltà economiche economiche potrebbe essere la pazza idea di Berlusconi di stampare euro con la zecca di Stato. Adesso francamente di fronte a queste cose uno dovrebbe dire dobbiamo. No, però scusi, onorevole Panizza, quando uno, se lei fosse stato presente lì alla riunione, Berlusconi nessuno avrà fiatato, ma uno doveva dire: caro Berlusconi, beh, adesso un attimo ti accompagno fuori, da una pacca sulle chiamiamo spalle, chiamiamo una delle infermiere, chiamiamo qualcuno lì qualcuno lì magari alla camera, vestiva da infermiera, tanto la reazione doveva essere questa, no? Perché altrimenti qui siamo a livello di Grillo, perché poi ha detto anche che non sarebbe una follia uscire dall'euro, cioè Berlusconi ha chiesto che la BCE la stampi, cosa che non può per il suo statuto, ha chiesto che la BCE la stampi. Gli statuti si possono anche cambiare, adesso non è che siano immodificabili, no, non ma è non questo si il punto. Può fare. Guardi, Berlusconi è stato molto chiaro nel dire: noi facciamo delle proposte alla Presidente Merkel, se la Merkel non accetta noi dobbiamo valutare delle condizioni diverse per il bene dell'Italia. Mi pare che sia un messaggio univoco, molto chiaro e assolutamente propositivo. Sì, ma al di là della Merkel, dei consigli della Merkel, però la sostanza che ha detto, la pazza idea è questa qua. Noi stiamo parlando della pazza idea, è veramente pazza o che, no? Le ripeto, io sul pazza non sottoscrivo, sull'idea sottoscrivo, e sul pazza è tutto da vedere, hai capito? Quindi questo è quello che io penso. Come la nipote di Mubarak, è uguale, è vero, è sostenendo amabilmente. Ma guardi che lì abbiamo già avuto una risposta anche dal tribunale, mi pare che le testimoni che sono state sentite hanno tutte confermato, o moltissime confermato, che la ragazza si presentava come tale. Quindi il legittimo convincimento del presidente Berlusconi non era proprio campato in aria. Senta, lui stesso lo ha confermato cioè, ai giornalisti a margine di una delle tante udienze. Senta, onorevole Panis, però al di là del fatto che lei rimane starei un po' attento. Lei rimane convinto che Berlusconi era convinto che fosse la nipote di Mubarak, però al di là di questo, ma lei ci crede alla storia raccontata dalla signora Polanco anche qui alla Zanzara del travestimento da Boccassini? Bello questo. Questo l'ha detto, prendo atto che così è stato, non lo so se l'ha fatto o non l'ha fatto, non ho la più pallida idea, non conosco la signora Polanco, non l'ho mai vista, ho letto sul giornale che ha fatto una dichiarazione di questo genere. Lei ce lo vede Berlusconi un po', diciamo, non dico arraparsi, però insomma... Arraparsi per aver visto la signora Polanco vestita secondo le fattezze del giudice Boccassini mi pare difficile, perché che abbia sorriso, invece penso che sia una cosa assolutamente umana e comprensibile. Sai cos'è bello? Perché l'avvocato Panis, no, ha detto giustamente che anche la Polanco le parole che usa, secondo le fattezze del giudice, è bellissimo, no? Secondo le fattezze del giudice, è meraviglioso. Ma poi ci ha detto anche che c'era tutta la toga, la parrucca rossa, gli occhialini, eccetera, delle mutandine e degli slip. È normale che sia così, il travestimento non è che... Ma in genere uno però magari c'ha un vestito, invece c'era solo un reggiseno e degli adorabili slip. Vabbè, ma quello è che ti aspettavi? Che era... No, magari uno ha una tuta da ginnastica sotto. La cintura di castità, non ho capito, no, che ti aspettavi? La chiusura, però, quella ermetica. Però no? È curioso che a un certo punto la toga e la parrucca sono caduti improvvisamente, tragicamente, ed è rimasta una signora, la signora Polanco, con devo dire che se fosse così, onorevole Panis, comunque c'è una grande creatività, no? Non so se tutto quello che raccontate in questo momento sia vero o non vero, perché non ricordo. L'hanno riferito in un tribunale, non è che non ricordo di aver letto tutti questi particolari in nessuno dei giornali, che pur su questa materia sono abbastanza doviziosi di notizie ampie. No, ma questo ce l'ha detto a noi, se vuole glielo facciamo ascoltare, la signora. No, guardi, non occorre che me lo faccia ascoltare, do per buono quello che voi mi raccontate e sorrido, perché non credo sia opportuno fare altro in una situazione di questo genere. Sorridiamo. Beh, genio, lei ha detto prima, positivo delle cose. Lei ha detto prima che Berlusconi è un genio, è sempre un fuoriclasse e dunque può avere anche... È un fuoriclasse, lo confermo e credo che su questo convengano sostanzialmente tutti. Beh, adesso su questo si può essere d'accordo, come disaccordo, sì, è vero che però è un fuoriclasse in diversi campi, no? Senta, quando uno inventa da zero quello che il presidente Berlusconi ha inventato, quando crea un gruppo industriale che ha decine di migliaia di dipendenti e quando milioni di cittadini italiani si affidano alle sue aziende investendo, trattasi di fuoriclasse, insomma io credo che noi ai fuoriclasse così nel campo del lavoro dobbiamo prestare ampio ossequio, perché oggi come oggi oggi come oggi, quando i posti di lavoro vanno contraendosi, quando datori di lavoro ne troviamo sempre meno e che hanno sempre spesso meno coraggio, quelli che invece il coraggio lo hanno avuto e hanno costruito imperi importanti con decine di migliaia di posti di lavoro, io credo che rappresentino per l'Italia un vanto straordinario. Ma l'ossequio che cosa significa? Ossequio? Ma io guardi, do ossequio a tutti gli imprenditori, a tutti coloro che... No, lei ha detto ampio, bisogna dare ampio ossequio. Ampio ossequio, ne so, costruire una statua in ogni piazza d'Italia. Non occorre costruire una piazza, però rispettarli e valorizzarli per quello che sono. Io lo faccio tutti i giorni, perché credo che oggi avere datori di lavoro che costruiscono posti di lavoro sia importantissimo. E noi abbiamo troppe volte svilito l'impegno dei datori di lavoro. Ecco, troppe volte abbiamo banalizzato la fatica di persone dedicavano tutto il sistema per costruire dei posti di lavoro. Berlusconi è uno di questi, perché ha costruito decine di migliaia di posti di lavoro. Per dare il timbro definitivo a questa carriera straordinaria e ossequiarlo, come dice lei, in modo corretto, cosa si potrebbe... Lui, tutti gli imprenditori. Vabbè, lei, stiamo parlando di Berlusconi però adesso. Come si potrebbe concludere? Stato molto più ampio nel mio messaggio. Sì, però era riferito soprattutto a Berlusconi. Come si può concludere, secondo lei, la carriera di Berlusconi? In che modo? La carriera di Berlusconi è conclusa. Il modo migliore, come è conclusa, dice lei, no? Lei è sempre lì a parlare, anche oggi, eccetera. Non mi pare conclusa, ma è come padre, niente. È padre nobile del PDL, è stato il fondatore, dà ancora idee importanti ed ancora messaggi di coesione molto forti. Ma oggi ha parlato ancora di rivoluzione liberale, come nel 94, è tutto fallito. Guardi, non è riuscito niente di questa rivoluzione liberale, non c'è nemmeno un'antichia, è finito tutto, le oggettine. Io non cambio l'Italia con nessun paese del mondo, sono molto orgoglioso di essere italiano. Ma questo che c'entra? Sono molto orgoglioso di essere stato guidato per molti anni dal presidente Berlusconi e dal suo governo. Sì, ma e credo che molti cittadini italiani la pensano nello stesso identico modo. Ma questo sì, però diciamo che è tutto finito, si è chiusa un'epoca, evviva. E non si può riprendere dal punto al 94, quando poi uno è stato al governo e non ha fatto nulla. Dal 94 al 2012. Guarda che ci sono delle idee che sono universali, che non hanno tempo, appunto, e che non purtroppo hanno epoca, purtroppo per fortuna, è così. Perché no, ci sono delle idee, le idee liberali rappresentano un perno della vita democratica. Il problema è che poi bisogna metterle in pratica. Vabbè, comunque, onorevole Panizza, molte delle idee democratiche e liberali del presidente Berlusconi sono state messe in pratica e hanno consentito all'Italia di superare momenti molto difficili. Lei dice, E io credo che anche oggi in molti cittadini italiani quei convincimenti siano assolutamente totali, non siano dei... Ma in molti italiani il PDL di Berlusconi è crollato dal punto di vista dei consensi. Comunque, vabbè. Guardi, quando anche fosse crollato al 15% o al 12%, ci sarebbe comunque un 12-15%, in realtà sarà un 20-23% che continua a pensarla con questi ideali e con questi valori. Io credo che questi vadano riscattati. Senta, ma lei lo candiderebbe Buffon col PDL? Un perfetto candidato PDLino? Beh, lo dico a lei che è juventino, dunque sfondo una porta aperta. Però, ma lei sa che io ho già candidato in epoca non sospetta Buffon e Del Piero, perché ho ritenuto che avessero tutti stoffa per poter essere... Ecco, ma dopo quello che ha detto in questi giorni Buffon, sarebbe un... Condivido al 100% quello che ha detto e Buffon. Sarebbe un candidato ideale anche per il PDL? Sarebbe un candidato ideale per la vita politica italiana. Poi, addirittura, lei lo vedrebbe bene in politica? Ma fare cosa? A fare quello che sta facendo in questo momento, dare messaggi molto chiari che possono aiutare la nazione italiana ad avere degli ideali, dei convincimenti garantisti, e anche delle super idee sulle quali, delle idee sulle quali io mi trovo perfettamente d'accordo. E Prandelli, che vuole, che ha in mente un ritiro della nazione dagli europei, come lo giudica? Io stimo Prandelli, voglio bene a Prandelli, ma non condivido la sua idea, assolutamente. Vabbè, così è troppo semplice. Mi dia un giudizio su Prandelli. Non è un po' moralista Prandelli? No, ma anch'io sono d'accordo con lei, però non è troppo moralista in questi giorni? Ma io credo manda via un giocatore e ne tiene un altro sempre indagato. Per me doveva tenere tutti e due. Io credo che sia sbagliato, assolutamente sbagliato, in questo momento fare i disfattisti e dare ossequio a alcuni delinquenti. E sono stato in disaccordo con il presidente Monti quando ha detto che avremmo dovuto sospendere il campionato per 2 o 3 anni. Io ho detto invece che dobbiamo sospendere quei 20, quei 50, quei 100, se vogliamo, giocatori o delinquenti che hanno utilizzato il mondo del calcio per i loro sporchi comodi. Questo sicuramente è il messaggio da dare all'Italia, ma i milioni di cittadini italiani che amano lo sport, che amano il calcio, che credono nei suoi valori, non possono essere disillusi o abbandonati con la chiusura dei campionati per fare ossequio, e uso ancora una volta questa parola, a pochi delinquenti. Comunque il Papa qualcuno già dice Buffon il Papa straniero del PDL, questo è un po' esagerato, però già Papa straniero. Buffon è uno straordinario campione oggi, è il portiere della nazionale oggi, chissà, il portiere della Juve, e chissà oggi, un politico domani deciderà di accettare una candidatura, sarà un eccellente candidato e credo anche per il suo buon senso e per la sua pulizia, per la sua trasparenza di uomo, una persona che può fare onore alla vita politica italiana. Buffon candidato, meglio nel PDL, no? Naturalmente, o quello che mi sarà. Pare abbastanza chiaro. Scontato, che essendo io uomo del PDL, posso auspicare. Ma anche per le idee di Buffon, mi sembra, no? Se no, dove va? Con Saviano? Non mi pare, con Saviano, non mi pare possibile, no? No, guardi, le idee che ha lanciato Buffon sono idee che sono totalmente autonomi rispetto a qualsiasi caratteristica. Ma è molto vicino a questo. Grazie all'avvocato Paniz. Pubblicità. È un piacere, buona serata. Pubblicità. Eccoci qui, Franco dalla provincia di Modena. Buonasera, Franco. Dica. Innanzitutto, povero Paniz, è un uomo che non conosce quello di cui sta parlando, ma me l'avete fatto ascoltare tutto. Io vorrei prima due cose brevissime. La prima, separare il Parenzo da lei, perché ritengo che Parenzo sia una persona decisamente... Scusi, ma lei è Franco da Milano, no? Franco da Milano? Sì, signore. No, perché c'è un altro Franco in linea dalla provincia di Modena. Allora, è Franco da Milano. Vede subito la linea. Io ho telefonato perché ho sentito per casualmente un suo commento su Prandelli che mi sembrava veramente ignobile, e lei ha bisogno che qualcheduno le telefoni e nella coreografia della sua trasmissione qualcheduno abbia il coraggio di dire che lei è una grossa testa di cazzo, perché trattare Prandelli in questo modo è ignobile. Prandelli ha semplicemente... Non ho capito cosa sarei, mi è sfuggita la frase. Io mi riferisco alla dichiarazione che Prandelli ha fatto alla televisione. Ha detto, nei confronti del comportamento di questi 40 banditelli ragazzotti che ci abbiamo qui, che guadagnano un sacco di quattrini e fanno delinquono come delinquono, lo sport passa, il calcio passa in secondo piano. Quindi se si ritiene nella gestione di una società, di una comunità, di decidere come iniziativa significativa quella di non andare agli europei, io sono qui e non si va agli europei. È stato il suo posto. Io cosa sarei? Non ho capito cosa sarei io, Franco. Scusi? Non ho capito cosa sarei io. È una grossa testa di cazzo. Benissimo. Una persona ignobile. Lei lo dice con una tale, come dire, con una tale suavità, bisogno che qualche dubbio glielo dica. No, ma era il modo in cui lei lo diceva. La sigla iniziale, questo sarebbe bello. Sì, no, lei lo dice con una tale, come dire, leggerezza, con una voce così precisa, compita, una voce così moderata, che quasi, no, che scivola via così senza problemi. Bene, dunque io sarei una testa di cazzo. Ed è bene che ci sia qualcheduno, e sono molti quelli che pensano quello che io gli ho detto. Cioè che cosa, scusi? Io glielo ho detto. Ma che cosa? Molti che pensano cosa? No, non l'ho capito. Ha dei comportamenti ignobili, ha delle... non si rende conto, scusi, del ruolo che lei gioca. Franco, mi posso permettere di criticare quello che ha detto il commissario tecnico della nazionale, o no? Ma non lo fa nel modo in cui lo fa. Senta, io ho detto semplicemente che è una frase ridicola, senza senso, perché è evidente... Ma neanche questo non può dire che è una frase... Non posso dire. Non è assolutamente vero, non è vero. Secondo lei non è vero e secondo me è vero. Prevaricatore che richiama... il mio atteggiamento prevaricatore nei suoi confronti in questo momento. Vabbè. Lei non è, no, non è possibile con il suo atteggiamento, il suo ruolo, la sua personalità, che lei continua a tenere in tutte le sue trasmissioni nei confronti specialmente di persone. Ma lei sta parlando tranquillamente, non si preoccupi, sta parlando tranquillamente senza problemi, nessuno ha prevaricato, nessuno... Mi avete anche chiamato, mi avete tenuto un mezz'ora a sentire questo povero Panis, che è una cosa terribile. Non è obbligatorio, non è, no, non gliel'ha consigliato, non gliel'ha, non gliel'ha detto il dottore di intervenire alla zanzara, se voleva no, non intervenire. Guardi, sia tranquillo, che mandi pure l'autoambulanza, ma qui così, guardi, l'autoambulanza verranno prima o poi a prendere lei. Bah. La saluto e questo... continuo a vedere il mio concerto. Bravo, bravo Franco, fa benissimo, traffico. Vittorio Sgarbi, ciao Vittorio, ecco. Come andiamo? No, professore, sei una testa di cazzo. No, vabbè, ma adesso esageriamo, su Vittorio, l'ha detto l'ascoltatore di prima. Volevo, come dire, carezzare quella delicata testa a fronte di una delicatezza che è già arrivata, quindi confortarti che è un pensiero comune. Ma scusa, ma chi aveva ragione? In questo caso chi aveva ragione? Non l'ho sentito. Ma Prandelli detto. Che vuole ritirare la nazionale. Non lo so, non... Perché c'è in lui un conato presidenziale. Gli piace il presidente, gli ha detto quell'altra pregnancia sulla partita. In realtà credo che... Scusa, ma perché sei contro? Lo sai che in questo momento c'è il ricevimento al Quirinale con 2000 persone? Dove sei? Sì, mi hanno invitato. Nei giardini del Quirinale. Vedere. Non ci vado più da Presidente della Repubblica. Perché? Che ti ha fatto? Che ti ha fatto Napolitano? Napolitano si è otto il comune di Salemi. Vabbè, questo chi se ne frega, abbia pazienza, questo è un po' chi se ne frega. Non me ne frega ma no, nel senso che Napolitano poi ha un ruolo marginale nello scioglimento dei comuni. Su. Però lui lo trovo un atto irriguardoso, oltre che assurdo, nefasto e sbagliato. Ma chi se ne frega di questo? Uno perlomeno telefona, non me ne frega, me ne frega sì, perché l'onore va difeso comunque, non mio ma di chiunque. D'accordo, non però tu l'hai attaccato sul 2 giugno, perché? Perché sul 2 giugno? Perché non sei d'accordo sul 2 giugno? Non sono d'accordo perché sia il Papa a Milano, sia Napolitano a Roma disperdono del denaro che non è populisticamente da indirizzare alla povera popolazione affranta, ma semplicemente è una ragione di opportunità rispetto al loro stesso interesse, cioè la celebrazione di questi, atti religiosi, di questa fraternità di cui il Papa è rappresentante o della solidarietà di cui il Presidente si fa carico, è nel dare qualcosa e nel mandare persone, c'è una quantità di persone o di sostegno. Vittorio, ma di che stai parlando? Tu sei d'accordo con quelli che dicono che si poteva risparmiare del denaro e non si potevano fare il 2 giugno e la visita del Papa per darle ai terremotati? No, non è che non sono d'accordo, sono convinto che sia una follia, la cosa migliore era mandare lo stirato l'anno scorso. Questa era la cosa da fare, ma dice che la stirata è una cosa televisiva, per 40.000 coglioni che vanno a vedere un gruppo di gente che fa una marcia ridicola e che è una cosa, ma è la festa della Repubblica, la rifai, mandi quella dell'anno scorso in replica tagliando Berlusconi e la Russa, si rimane Napolitano più bella prima, anche quella di 2 anni fa, rimandi quella. Ma perché? Perché? Perché è uguale, perché è una sfilata di coglioni, è inutile, non c'è niente, tanto vale che tu mandi quella che se vuoi fare una sfilata, è un evento televisivo, non è un evento regato, perché quante persone andranno? Ma 20.000 persone. Tu lo dici, guarda, io devo dire la verità, secondo me è replica quella dell'anno scorso, ti costa molto di meno, più bella, più luminosa e più... Tu lo dici solo ed esclusivamente perché il terremoto ha colpito le tue zone. Sì, assolutamente no, così. Sono totalmente legato alla logica, anche l'anno scorso ero contrario alla sfilata, cioè per me andava, siccome è una cosa che fa ridere i polli, va fatta, ne va fatta una per sempre e mandate in replica quella, fatta bene, pulita, un film in replica, come una sinfonia di Beethoven, la mandi è sempre quella, no? Che deve fare, anche c'ha sta sfilata di nuovo. Ho capito, ma è una, scusami, ma che ti ha fatto di male? Che ti ha fatto di male questa sfilata? È una cosa demagogica questa cosa di annullare la sfilata per il terremoto. È la coincidenza, non la coincidenza. Ma la coincidenza di che? Se fosse successo il 21 aprile il terremoto, che cosa avremmo fatto allora? 21 aprile cosa c'era? Ma per dire, prima del 25 aprile, prima del 25. Facevamo a meno di buttare soldi il 25 aprile, so che i soldi hanno buttato, ma mi pare che non buttino soldi, o li buttano anche il 25 aprile. Non lo so, ci sarà qualche cosa. Sono tutti i soldi buttati, una quantità di stupidaggini, cose senza senso. Tant'è vero che fino al 2000 non c'era più, sai quanto era importante? La rimessa in auge Ciampi, perché si è svegliato la mattina che c'era l'Unità d'Italia, benissimo, allora ne facciano una ogni 10 anni e la mandano in replica ogni 10 anni. Basterebbe ridurre le pensioni ai parlamentari, guarda un po' Vittorio. basterebbe ridurre le pensioni ai parlamentari. Ma le pensioni sono una cosa completamente diversa, quando le pensioni devono ridurre. Stai parlando alla pensione, stai pensando alla pensione di Sgarbi. La teoria di quella testa di cazzo di Parenzo che tira sulle fuori le pensioni dei parlamentari, no, le pensioni sono un dato acquisito, non c'entra nulla. No, quindi appunto, uno se vuole fa una cosa per il futuro, non per il passato. Comunque non volevo rompere le scatole all'amico Vittorio su questo, volevo chiedere invece a Don Sgarbi, grande difensore del Vaticano. Bene. Questa notizia gravissima che leggo, che a Linate i Papa Boys hanno fatto togliere dalle edicole le riviste di Playboy. Ecco, questa è una cosa. Ma questa è una stupidaggine, su, dai. A parte che io sono ben poco donna, perché se la mia posizione è totalmente libertina, è talmente libertina che voglio la libertà per tutti, e quindi, come tu sai, sono contro ogni matrimonio, compreso quello gay, perché sono contro il matrimonio di tutti. Questo qua lo sappiamo. Quindi questa è la mia teoria del donna, sì. Figurati quando sono donna. E poi hanno fatto malissimo perché sono dei poveretti. Papa Boys potevano correre tutti a sparare le macerie e facevano molto meglio come atto di fraternità. No, questo i Papa Boys fare. A sparare le macerie. Ma io non ho capito che qual è il problema della visita del Papa a Milano. Me lo vuoi spiegare, Vittorio? Scusami. Il problema. Soldi buttati, gente inutile. Il Papa anche lui dalla televisione. Parli in televisione. Tutta questa gente qua ha uno strumento formidabile. Napolitano fa un bel discorso in televisione. La filata la mandano in replica e il Papa parla al popolo in televisione. Perché l'idea è andare a vedere. Basta visite parate, città bloccate. Ma vedremo a 300 metri. Ah, io quello, guarda, io non ci vado, questo non c'è dubbio. Allora cosa serve? Vai lì per farti. E ci stanno quelli che gli piace vedere il Papa a 500 metri. Se lo vedono in televisione, che è ottimo, è magnifico, è perfetto. Una volta non c'era la televisione, infatti andavano in giro. Se c'era la televisione, stanno a casa, fanno un bel torsetto e lo sentono tutti. Finito. No, devo dire su questa cosa di vedere il Papa da lontano, però uno partecipa ad una festa collettiva, ci si unisce in piazza. Ma queste feste inutili, siccome quella appunto, quanta gente va a vedere la sfilata del 2 giugno secondo te? Beh, ci andranno. Sì. Niente, una cosa completamente inutile, come un concerto, una cosa patetica. Ma tu l'hai chiamata addirittura una fascistata arcaica, non esagerare. Fascistata arcaica, sì, la trovo totalmente, tanto è vero che è una fascistata perché esalta le glorie militari, che sono le cose più grottesche, cioè bisognerebbe chiudere l'esercito, non si capisce da chi dobbiamo difendere, cosa ci facciamo dei carri armati, contro chi vanno questi carri armati? 15 milioni di euro un carro armato, nel buco del culo se lo devono mettere. Ma scusa Vittorio, adesso al di là delle trovo le stesse militari grottesche, lo sembra. Ho capito, ma l'esercito servirà oppure bisogna eliminare l'esercito? Non ho capito. Vabbè, non si sente più, adesso lo richiamiamo. Riccardo da Catania. Pronto? Riccardo, dica. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Benenzo. Senti, io volevo innanzitutto aspettare. Però non ci ho mosso tutto così. Riccardo, animo. Più. Ecco, un po' più animo. Più animo, sì. Ecco, allora, io volevo spezzare una lancia in favore di Scaiola. Perché un mio amico è successo che improvvisamente ha ricevuto una cartella esattoriale dove ha scoperto di avere un'altra casa oltre a quella che aveva, quindi o è lo stesso ignoto benefattore di Scaiola oppure una minchiata dal catasto. Vabbè, ma io che ne so della cartella esattoriale che ha ricevuto il suo amico, scusi Riccardo, abbia pazienza. Potrebbe essere che Scaiola abbia subito la stessa cosa. Ah, lei dice, vabbè, gli è arrivata per caso una casa e non se ne rendeva conto, vabbè, ho capito. Invece per la pazza idea oggi c'è stata un'affermazione del nostro Presidente del Consiglio secondo il quale il Nord è danneggiato dall'evasione fiscale che è più alta nelle altre regioni. Ora, dubito se possa un economista quale si definisce possa dire questo, perché anche i numeri, cioè essendo l'economia del Nord enormemente più importante di quella delle altre regioni d'Italia, per forza di cose statisticamente dovrebbe essere la maggiore. Quindi, ora, fra le tante pazze idee, dover sentire queste cose, tra l'altro da una persona che dovrebbe essere un tecnico e quindi non dovrebbe cercare di accaparrarsi i voti, mi pare una cosa veramente folle. E fa il pandante con quello a cui assistiamo ogni giorno. Grazie. Andiamo a Salvatore, sempre dalla Sicilia, Palermo. Sgarbi? Adesso lo riprendiamo. C'è, mi sa, c'è Vittorio? Eccoci qua, ci sei. Ma non hai pagato il conto di un albergo, mia? No, adesso pare che abbia pagato, sì, erano poco, 150 euro, quant'era, Vittorio? No, niente, non era nulla, era una cosa totalmente inventata. Ero a fare la trasmissione, peggio di voi, Ambiente Italia, hanno prenotato la stanza e qualcuno ha pensato che si pagarla io, ero lì per la televisione e questo era tipico equivoco di questa gente disperata. sa cosa fare, non polemizzare. Comunque la, del comune che ha detto l'altro giorno, l'altro giorno, e cioè di Beppe Rovera. Comunque l'altro giorno, Vittorio, ho incontrato la persona che pagò la famosa cena tra te e Parenzo, eh? E ti ha pagato Parenzo alla fine? No, figurati se ha pagato Parenzo. Chi ha pagato Parenzo? Dico... Ha pagato il mio amico operatore finanziario Eugenio Benetazzo. Ha pagato lui perché Parenzo come al solito non c'aveva un euro, eh? No, ha pagato Parenzo. No, ha pagato Benetazzo. Ma io mai avrei pagato una cena di quelle cifre lì. Ma il problema non è che lui voleva pagare di meno e questo ha detto guardi le offro la cena, cioè a 400 euro ha detto che ne ha solo 250, così una cosa tipica proprio di quel poverino che lui, ma fa tenerezza, insomma ha bisogno di elemosina. Poi tra l'altro lavorava per conto di una televisione che doveva andare a me almeno 40 volte sempre gratis, poi sta certo. Fuori l'albergo, l'albergo nel buco del culo si deve mettere. Ma che c'entra questo adesso? Sempre con queste parolacce, basta. Perché io non devo lavorare per voi che venite pagati inutilmente, essendo due meschini incapaci, gratis sempre. Ma tu allora lavori gratis, esatto, lavori gratis per noi, dovresti essere contento di lavorare gratis per noi. Vi rispondo qualche volta, perché così posso mandarvi a fare in culo, ma non ho nessuna intenzione, io quando lavoro per radio sono pagato come voi. Ma noi ti abbiamo pagando minusamente due cervelli vuoti come i vostri, essere pagati perché? Ma noi borsa, abbiamo la borsa, fermi tutti, abbiamo la borsa. Bene, siamo qui la Zanzara, ultima mezz'ora, sempre in collegamento con noi Vittorio Sgarbi che è in macchina e sta andando alla solita presentazione del libro, gira tutta l'Italia. Danilo da Napoli, Danilo, cosa ci dice? Salve, mi sente? Sì, sì, la sento, dica. Ecco, no, mi interessa un vostro mi seguo spesso, però sono sobbalzato mezz'ora. Danilo, lei ha il viva voce, però è qualcosa del genere, non la sentiamo bene. Non so col viva voce, sto col cellulare, ma non sto col viva voce. Va bene, allora? Le dicevo, sono sobbalzato mezz'ora fa quando ho sentito e ascoltato Panitz. Sì. Avallando quello che credeva Berlusconi sul caso su Rubi, che fosse una. Vabbè, allora? La nipote di Mubarak, insomma. Ho pensato di presentarmi tra qualche giorno con Monti dicendo magari dire che sono alto un anno, 1,80 m e sono il nipote di Putin. Solo per questo insomma mi dovrebbe credere, insomma. Io mi aspettavo che voi lo incalzaste un po' da questo punto di vista, perché ma è la centesima volta che lo ripete da noi questa cosa qui, ma oltre alle risate, cosa dobbiamo dire, Danilo? Scusi. Lo dovreste un po' incalzare, perché questo... Ma è la centesima volta che lo ripete da noi, che cosa incalziamo, che cosa, su che cosa lo incalziamo, su che cosa? Sul ridicolo, su ciò che ha detto che... Ma qualche volta basta anche una risata, non è necessario. Insomma, questo sì. E cosa dovremmo fare, impiccarlo? Cosa dovremmo fare, impiccarlo? Vabbè, però... Però che? Cioè, se mi suggerisca... Parole, insomma, ecco. Mi suggerisca lei cosa dobbiamo fare, così almeno siamo più contenti, no? Vabbè, comunque era un'osservazione questa qua, insomma... Niente, ho detto qua, un vabbè. Saluto. Grazie. Vittorio, ci sei ancora? Sì. Dove stai andando? Vado a Monza. A Monza. Per evitare il Papa, così invece di toccare Milano mi fermo a Monza. Beh, addirittura. Per non incontrarlo, sì. Per evitare... Ma la pazza idea di Berlusconi qual è, secondo te? Questa storia dell'euro, stampiamo l'euro con la nostra zecca. Questa è una follia, tu lo sai, no? Sì, no, ho visto che ha fatto un discorso sull'euro, ma non ho capito cosa si riferisce. Stampiamo l'euro con la nostra zecca, è una follia assoluta. Eri tu... Insomma, in realtà dove andremo a finire è poco chiaro, però che ci siano... delle possibilità di tornare alla lira non mi sembra del tutto escluso. Idee pazze, dice di avere idee pazze per il futuro Berlusconi. Sì, questo credo anch'io. Lo vedrò nei prossimi giorni, così te le chiedo. Poi vi riferisco. Riferiscici. In realtà ho letto da qualche parte, questo parlava di Rubi, no? Sì. Questa cosa bizzarra della concussione legata alla mancanza di un vantaggio materiale. Il fatto che di per sé potrebbe sembrare in corrispondenza con la richiesta europea, ma c'è una cosa più sofisticata, che questa concussione fatidica è stata fatta nei confronti di un tale Ostuni che ha ricevuto le telefonate, però si è anche capito che lui non ha parlato con la persona che ha agito, che si chiama Iafrate, questa bella poliziotta, che ha detto di aver agito in totale autonomia e in perfetta convinzione di quello che ha fatto. Allora non c'è una concussione di sponda, è un altro processo grottesco, cioè tu fai la concussione rispetto a un reato che non è stato realizzato, no? Poi vedremo. La decisione l'ha assunta l'AIA Frate come decisione propria, quindi c'è l'autonomia. Un maresciallo, non è che uno deve. Ma tu hai letto quella cosa? PM Vittorio, il PM Sgarbi ha già fatto l'inchiesta. Sì, ho già fatto e tu devi anche stare zitto, buttare i soldi in un processo inutile è totalmente idiota. Ma non lo decidi tu? Il PM Sgarbi ne sa molto più di te, perché i reati devono essere reali, non devono essere inventati. Ma non lo decidi tu? La concussione si fa direttamente con il concusso. Ma non lo decidi tu? Altro, si chiude tutto, si archivia, basta, non si rompe il cazzo al mondo perché uno ti sta sui coglioni. E perché scopa una Vittorio, scopa. Vittorio, si scusa chiude, un attimo. Si smette di buttare i sì, soldi ho capito. In un processo inutile. Ma tu l'hai visto? Stanno ai poveri. Ma abbiamo capito, stai calmo. I soldi delle persone in processi ridicoli, solo perché ti sta sui coglioni Berlusconi. Ma l'hai vista? Il processo è senza fondamento. L'hai vista? È partito. Il concusso è un altro. L'hai vista? Ha fatto un'altra cosa. Va bene, l'hai vista la... Altro che il PM parla quel cretino che non sa quello che dice. Sta sempre dalla parte del PM perché è una specie di Ebet scimmia di travaglio. Questo è diventato Parenzo. Un leccaculo di travaglio che ripete le stesse cose. Non è questione di PM. Porta più rispetto perché ti pago la pensione. Non sono sui fatti. Porta più rispetto perché ti sto pagando la pensione. Ma la pensione, guarda, te la puoi mettere dentro. No, culo, fermi tutti. Vittorio, dai, ancora, su, e basta. Ma perché? La pensione. Basta. Scusa. Ma quel povero cretino. Tra l'altro, tu, Vittorio, su Twitter insulti tutti a rotta di collo, ti insultano anche. Rispondi. Però che uno mi venga a dire ha parlato il PM, non c'è bisogno di essere PM. E dai, non ti scaldare per così poco, dai. Inutili, insensati. Adesso dobbiamo. Pastori. Questo sono d'accordo con te. L'altro giorno. Potrebbero essere buttati via subito. Una volta che vede è andato a casa Berlusconi, basta, non è che insisti a vedere quante volte ha trombato la Polanco, la Polanco dice che si è travestita da Boccassini. Non è un processo quello, è una bufala di magistrati perditempo che prendono soldi da noi, altro che pensione. Senti, ma lei dobbiamo fare delle puttanate fare novella 2000. L'antimafia si è messa contro Corona, ma che cazzo stiamo raccontando? L'antimafia combatte la mafia, non Corona. Questo pure è bizzarro. L'hai sentito? Così, tutti i soldi che spendiamo noi per gente inutile che si gloria, o quell'altro lì che fa l'indagine sul mio vice sindaco e se la vuole scopare. Ah, no, e basta, basta. Proprio così. Basta, dobbiamo chiamare una persona importante. Aspetta un attimo, dobbiamo chiamare una persona. Basta, dai, su, ma non è possibile. Il vice sindaco, ogni volta è un casino qua, scoppia l'inferno. Scusa, ma la Polanco travestita da Boccassini, ne hai sentito? Cos'è? È materia di processo, quello lì è comica. Comica, pura comica, diventata processo con soldi nostri per pagare i processi, per pagare la Boccassini o pagare quell'altro lì San Germano che interrogano uno su come si travestiva. Come cazzo voleva si travesti? Come ha risposto la Ida Essica a Woodcock? Scopo con chi mi pare. Ha fatto bene, finita lì. Aspetta un attimo che voglio... Renzi, aspetta. Vittorio Emanuele, 2 milioni di euro di intercettazione su Vittorio Emanuele. Ma valgono... Va bene, ho capito. No. Aspetta un attimo che voglio sentire una persona importante. No, dai, ancora, Vittorio, su, lì, basta, sì. Sei fissato, Ma vabbè, siccome dice che non devo fare il PM, io guardo le cose, leggo, c'è scritto tutto. Aspetta che c'è una persona, Il Presidente della Repubblica, tra le tante cose, i processi inutili non si devono fare, si chiudono, secchi, finito, punto. Ma non lo decide lui i processi utili? Decido io, perché il Presidente della Repubblica non è uno che ha un pensiero superiore al mio, ce l'ha assai inferiore. E potrebbe ragionare sulle cose. Vabbè, assai inferiore adesso. Non senza neanche telefonarmi quando decide di sciogliere per mafia un comune dove la mafia non c'è la mafia. A Salemi la mafia non c'è. Non ce n'è traccia. Non ce n'è traccia. Le pale eoliche che continuano a proliferare. Va bene. Fare nei luoghi dove un attimo solo, Vittorio. Vittorio, vabbè. E quando l'ho detto, niente, non ho fatto un cazzo. Va bene, abbiamo capito. Perfetto. Allora, è con noi Domenico Criscito. Buonasera. Buonasera, ciao, buonasera Mimmo. A tutti. Ciao Mimmo. Allora, voglio subito chiederti una cosa. Perché Bonucci, stiamo parlando di Domenico Criscito, difensore dello Zenit San Pietroburgo, difensore della nazionale, stromesso dagli europei di calcio per volontà della federazione, perché indagato, soprattutto dopo la pubblicazione anche di una foto, adesso non stiamo a ricostruire, una foto in un ristorante, erano insieme a delle persone, eccetera, eccetera. Perché tu è stromesso e Bonucci, per esempio, che è indagato anche lui, secondo me tutte e due potevate rimanere tranquillamente, perché tu sì e lui no? Perché la scusante è che a me è arrivato l'avviso di garanzia prima, ma io penso che entrambi meritavamo la nazionale, entrambi meritavamo di essere lì agli europei. Purtroppo a me mi è stato negato per un avviso di garanzia, e avviso di garanzia, come tutti sappiamo, non vuol dire essere colpevole, ma vuol dire difendersi dall'accusa che mi viene data. Oggi in qualche intervista Domenico Criscito, giocatore di pallone, uno pensa ai giocatori di pallone, no? No, che non sappiano niente di cose che riguardano il diritto, la politica, ha espresso un concetto secondo me fondamentale in maniera chiara: l'avviso di garanzia dovrebbe tutelare chi è indagato. Invece in questo caso si è trasformato in una sorta di boomerang nei suoi confronti, o comunque in una sorta di plotone di esecuzione, per cui la federazione ha deciso praticamente senza nemmeno guardare le carte, da quello che so, giusto Domenico? Sì, giusto. Non hanno manco guardato le carte e ti hanno mandato via? No, il mister mi ha parlato, nessuno ha guardato le carte, mi ha parlato, mi ha visto scioccato, ma è giusto che sia così. Io ero scioccato le prime ore quando sono venuto in camera a perquisire la stanza, ed è normale che fossi scioccato. Poi dopo un po' mi sono tranquillizzato ed ero pronto ad affrontare questa esperienza. Scusa un attimo, io ipotizzo una cosa: mettiamo che tu vieni, poi la tua posizione viene archiviata, no? Tra qualche mese, che succede a quel punto? Chi ti ripaga di tutto questo? Cioè l'esclusione della nazionale, problemi magari con gli sponsor, l'immagine rovinata? E questo è il punto, che purtroppo nessuno mi ridà quello che mi avevo costruito alle spalle. Mi ero costruito un'immagine pulita, mi ero costruito una posizione fissa in nazionale, tutti pensavano il Criscito pulito, adesso tutti pensano il Criscito sporco, il Criscito di qua. Invece io sono sempre stato leale, sia nel calcio ma soprattutto nella vita. Hai mai scommesso? Hai mai scommesso? Mai, mai, mai. Senti una cosa, è ipotizzabile che i tuoi avvocati chiedano un risarcimento alla Federcalcio se la tua posizione dovesse essere archiviata? Ma io penso prima all'archiviazione, penso prima ad uscire da questo parentesi. Sì, mettiamo che tu esci fuori, ma è ipotizzabile che tu chiedi danni alla Federazione per quello che è successo? No, penso di no, perché non mi va neanche di chiederli, sinceramente. Io una volta archiviato il caso, la cosa che pretendo sono solo le scuse da parte di tanti e basta. Ah, le scuse. E la prima persona che ti dovrebbe chiedere scusa una volta che esci da questo caso, chi è? Tutti quelli che mi hanno infangato, tutti. No, ho capito, però per esempio chi è che ha deciso la tua esclusione? Ci sarà stata una persona che ha deciso la tua esclusione? Ma sicuramente il mister, ma insieme alla Federcalcio. Dunque il mister e la Federcalcio, soprattutto la Federcalcio, il presidente... Loro hanno deciso la mia esclusione. E dunque sarà in primis Abete, se sarà ancora presidente della Federcalcio, sarà il primo a doverti chiedere scusa. Ma non dico il primo, io spero che sia uno dei tanti. Prandelli, in primis Prandelli. Tutti, no, io dico tutti, io non risparmio nessuno, non dico chi primo, chi ultimo. Tutti quelli che ritengono che io sia colpevole, che io ho fatto qualcosa di male, poi alla fine dovranno chiedermi scusa. Senta, perché comunque? Alla fine la verità verrà a galla. Scusa, perché eri in quel ristorante insieme a quelle persone, tra cui pregiudicati, capi ultra, eccetera? No, io ero lì solo per incontrare i capi ultra, poi non sapevo chi ci fosse. Ero lì per incontrare i capi ultra perché due giorni prima si era giocata la partita contro la Sampdoria. C'erano state polemiche, sì. Polemiche, incomprensioni tra squadra e tifoseria, che noi non siamo andati ad esultare dopo il derby sotto la curva. Qualcuno ha degenerato con qualche termine offensivo nei confronti della curva. E io diciamo che sono stato chiamato come simbolo della squadra. E sono andato lì per chiarire, ma dopo quell'incontro abbiamo chiarito con la tifoseria, io ho preso la macchina e sono tornato dalla mia famiglia. Allora abbiamo il traffico, torniamo subito con il grande sacrificato di questi europei di calcio, l'unico che fino adesso ha pagato in termini naturalmente di esclusione, e cioè Domenico Criscito. Parenzo, sei convinto oppure no? No, io rispetto il dramma umano che sta vivendo, rispetto però anche la decisione della Federazione Italiana Gioco Calcio, di cui non condivido, cioè non capisco perché lui sì e quello indagato no. Cioè la Federazione Italiana si pone un problema, che è quello di metterci la faccia su tutta questa porcheria che sta saltando fuori. Sì, però qualche riflessione in più ci poteva stare, non lasciarsi prendere dalla frenesia. Un attimo solo che ho il traffico, torno subito. Allora, Domenico Criscito, difensore della Nazionale, escluso dall'Europeo, dice: se uscirò, sono fiducioso di uscire innocente da questa storia, insomma la federazione, Prandelli, altri mi dovranno chiedere scusa. Che danno ti è stato fatto, se naturalmente poi tutto quanto dovesse finire nel nulla, si può quantificare? Quantificare no, sicuramente un danno grossissimo all'immagine. C'è qualche sponsor che magari già no, sponsor no, però appena uscita la notizia, comunque la cosa che ha fatto star male la mia famiglia, questa è stata la cosa più brutta, perché comunque addirittura non ricordo quale rete aveva detto che io fossi stato arrestato. Sì. E quando un genitore guarda una cosa del genere, comunque sta male. Ma la perquisizione cosa cercava, no? Ah, non lo so, io... Ma ti hanno preso il telefonino? Hanno preso il computer, un iPad, ma per me potevano prendere tutto quello che volevano, ho lasciato tutto tranquillamente, anche a casa mia moglie si è messa a disposizione, ha lasciato tutto. Ma sei d'accordo con quello che ha detto Buffon, che c'è fuga di notizie, i giornalisti sanno tutto prima, c'erano già le telecamere, sei d'accordo con Buffon o no? Beh, che i giornalisti sanno la notizia prima, sì, sono d'accordo con Buffon, perché... Cioè che è una vergogna questa cosa qua, sei d'accordo o no? No, una vergogna no, comunque il giornalista fa il suo mestiere, se sanno le notizie prima, buon per loro. Però fa strano vedere alle 5 del mattino già i giornalisti fuori da Coverciano, erano anche in tanti, e questo fa strano. Non la definiresti una vergogna questa qua? I giornalisti giustamente fanno il loro mestiere. No, ma non una vergogna dei giornalisti, una vergogna che sappia che come dire, che è tutto annunciato. Sì, prima sì, perché lo sa prima i giornalisti e poi il diretto interessato, l'hanno saputo prima loro e poi io. Senti, ma frequentare gli ultra secondo me non è normale, però io ti rimprovero questo, non so niente del resto, però frequentare gli ultra secondo me non è una bella cosa. Ci dovrebbe essere una presa. Io non è che li frequento tutti i giorni, mi hanno chiamato, mi volevano parlare, li ho visti. Penso che il rapporto tifoseria giocatori ci sia in qualsiasi piazza, è un rapporto normale, civile, senza alzare toni, senza mettere le mani addosso. Non è, penso che questi rapporti ci siano in qualsiasi città dove ci sono grandi piazze. Ma è più grave la tua posizione o quella di Bonucci o addirittura di Buffon per questa storia delle scommesse, che naturalmente deve essere verificata, lui... che è uscita. A proposito, hanno fatto una porcheria Buffon, quella di far uscire questa notizia proprio il giorno dopo le sue frasi? Anche questo mi sembra strano, sinceramente. Ecco, ma no. La tua posizione è meno grave di quella, per esempio, di Bonucci? Io penso che abbiamo tutti e due accusati l'associazione a delinquere finanziaria dalla frode, penso che siamo sullo stesso livello. Io però sono tranquillissimo, sono a posto, perché io non ho niente da nascondere. Spero che lo sia anche Bonucci, anzi lo sono sicuro, perché conoscendo il ragazzo è un ragazzo che ha il carattere simile a mio, quindi sono sicuro anche di questo. Sì. Ma io sono sicuro che chi è pulito uscirà pulito, perché ripeto, la verità verrà a galla. Tutto questo tormentone ci sono tanti, secondo me, tanti puliti. Vittorio, dove sei? No, a sentire questa brava persona che ha solo fatto un errore nella descrizione della sua vita, dicendo che si è costruito un'immagine, non c'era da costruire niente, è una persona onesta, non si costruisce, è la costruzione, presuppone un'alterazione o qualcosa che è stato fatto apposta. In realtà lui è un'altra vittima dei PM, e quindi ai PM deve chiedere conto della loro leggerezza, come un altro che cito al nostro Parenzo, visto che io poi l'unico a dire che era innocente e lo hanno assolto, che si chiama Fazio. Guarda un po', sentiamo cosa diceva Parenzo di Fazio 3 anni fa. Sarebbe lunga, sarebbe lunga. In questo caso però, Sgarbi, sulla vicenda di Criscito, i PM fanno le indagini, d'accordo. Lui è vittima della federazione, che lo ha cacciato con troppa fretta. Lo ha cacciato per un avviso di garanzia e improvvidamente è andato. Ma improvvidamente non lo so, un avviso di garanzia per l'interpretazione degli avvisi di garanzia. Ma devo chiudere, grazie a Criscito, grazie a Sgarbi, grazie a Parenzo, devo assolutamente chiudere. A lunedì 18:30, ciao. Prima volevo dirgli una cosa, insomma lei è molto simpaticissimo. La zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. La zanzara.